passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Vi ripeto il numero 800 24 0024, numero particolarmente importante questa sera perché saremo con voi per un'ora in più fino alle 21:45, soprattutto per tutti quelli che in queste ore sono bloccati in città e altrove dal maltempo. Messaggi SMS 349-238-6666, la Zanzara @ radio24.it, il nostro indirizzo email. Come al solito, iniziamo subito con i titoli del TG2. A Mumbai si continua a combattere. Nel centro ebraico trovati morti 5 ostaggi, tutti salvi gli italiani. Il bilancio sale a 151 morti. La storia di Emanuele, il cuoco italiano dell'Oberoi Hotel che durante i giorni dell'assedio ha sfidato i terroristi per portare il latte in polvere alla figlia di pochi mesi. Approvate dal Consiglio dei Ministri le misure anticrisi nel pacchetto bonus per le famiglie, detassazione premi di produttività, agevolazioni su bollette e tariffe, tetto per i mutui. Nevica su gran parte del centro-nord, imbiancati 500 km di autostrada, in Sardegna raffiche violentissime di scirocco e pioggia battente, la protezione civile, chi può resti a casa. Bene, erano i titoli del TG2 e sentiamo a ruota quelli di Studio Aperto. Si spara ancora a Mumbai, presa d'assalto dai terroristi. Una parte del comando resiste nell'hotel Taj Mahal. Uccisi 5 israeliani nel centro ebraico. Il bilancio sale a 150 morti. Le testimonianze dei superstiti. In salvo tutti gli italiani che erano ancora prigionieri. A Livorno si piange Antonio Di Lorenzo, l'imprenditore rimasto ucciso. Italia nella bufera, 4 vittime negli incidenti provocati dal maltempo, il più grave a Caltanissetta. 2 operai precipitano con il furgone da un viadotto per il forte vento. Nevicate in Piemonte, Liguria e Lombardia, disagi sulle strade. Ad Alessandria è bloccato un treno senza luce nel riscaldamento. Ancora nubifragi e inondazioni in Sardegna, situazione e previsioni in diretta. Il governo approva il pacchetto anticrisi, bonus per le famiglie a basso reddito, agevolazioni su bollette e tariffe e tetto per i mutui. Arrivano gli sgravi per le imprese. Appello di Berlusconi all'opposizione, diamoci una mano nell'interesse del paese. Sono rumeni gli assassini del gioielliere brutalmente seviziato nella sua casa di Acilia. Conoscevano e frequentavano la vittima. 2 gli ordini di cattura, uno per il killer, l'altro per l'uomo trovato in possesso della refurtiva a Milano. Ora è caccia ai complici. Gara clandestina, si sfidano in auto e moto a folle velocità sulla statale del Brennero in pieno giorno davanti a decine di spettatori, ma il video del duello è finito su YouTube, corsa finita, denunciati 2 quarantenni. Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, 800 24 0024. No, non è il ragionier Ugo Fantozzi, è un altro Fantozzi. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. No, non è certamente questa la vita di quello che oggi Libero dipinge come signor 15 milioni, il commissario Augusto Fantozzi. Bravissimo commercialista, bravissimo tecnico, è stato ministro più volte, però c'è un dubbio che riguarda la sua ricompensa come commissario straordinario di Alitalia. Libero parla appunto di 15 milioni, c'erano state già delle anticipazioni della stampa nei giorni scorsi, deriva da un calcolo sulla base della legge prevista in questo caso per i fallimenti e dunque per il ruolo del commissario. Interrogazioni parlamentari per esempio del Partito Democratico. Se corrispondessero davvero le informazioni secondo le quali il dottor Fantozzi percepirebbe un compenso di 15 milioni, la riterremmo una cosa grave. Uno, perché per i manager pubblici questo Parlamento aveva fissato dei tetti e probabilmente si va in deroga, e vorremmo sapere con quale atto si va in deroga. E secondo... E poi interrogazione anche naturalmente dell'Italia dei Valori. Alcune agenzie di stampa hanno battuto la notizia che il commissario straordinario all'Italia Fantozzi percepirebbe o dovrebbe percepire per il suo incarico 16 milioni di euro. Queste dunque le cifre ipotizzate, vero, non vero? In realtà il commissario dell'Italia ha diffuso una nota ieri, una nota o stamattina, non ricordo bene, una nota abbastanza tecnica in cui dice ci sono delle disposizioni di legge. Potrebbe dunque anche essere così, che alla fine i conti porteranno ad un compenso per Fantozzi di questa cifra, un compenso così rilevante. Bisogna intervenire? Sarebbe uno scandalo? Lo chiedo naturalmente a voi, so che è una domanda abbastanza scontata di questi tempi, però ci sono anche le leggi che determinano i compensi dei commissari straordinari. Andiamo a sentire Berlusconi su provvedimenti adottati. Dice Berlusconi: non potevamo fare di più perché abbiamo ereditato un grosso debito pubblico. Certo. A risolvere le pesanti eredità che aveva ereditato. La prima è quella del debito pubblico, il debito pubblico che è di circa il 105% del PIL. Sul debito pubblico abbiamo prodotto una grande innovazione. Da questo punto di vista bisogna dire una cosa, non è mai superata, non si supera mai quella brutta abitudine da parte dei governi di attribuire tutte le responsabilità a quello che è accaduto nel passato. Ora è vero che l'Italia ha un grande debito pubblico, un debito pubblico piuttosto pesante, però a parte che ci sono stati diversi governi Berlusconi che non lo hanno scalfito, e comunque in ogni caso c'è sempre questa fissazione: non possiamo fare altrimenti perché abbiamo ereditato dagli altri la situazione attuale. A proposito della famosa social card, per fortuna qualcuno a sinistra è un po' meno snob di altri, per esempio rispetto a quelli dell'Unità che ieri hanno titolato elemosina. Sentiamo Piero Sansonetti. Sostenere che questo provvedimento sia un provvedimento che affronta strutturalmente la crisi drammatica che viviamo, evidentemente non lo pensa nessuno, non lo penso io, credo che non lo pensino nemmeno gli esponenti del centrodestra. Però francamente, sì, vengono dati un numero di soldi diciamo molto molto basso, poco più, però sono dei soldi a chi guadagna meno di 22.000 euro. Io non capisco perché dovrei essere contrario. È una misura che in misura minima aiuta una situazione di disagio gravissimo che va affrontata con tutt'altre misure, ma intanto questa piccolissima cosa c'è. E sulla stessa lunghezza d'onda Lucia Annunziati, in un bel articolo questa mattina sulla Stampa, un po' di conti, scrive: se una famiglia guadagna 500 euro al mese, un dono mensile di 40 euro costituisce quasi il 10% di aumento del suo reddito. Sputateci sopra. Molto fastidiosa, perché molto snob, la discussione sollevata dall'introduzione della social card. Si è sentito di tutto: umiliante, elemosina, tessera non aria, beffa, misura irrisoria e paternalista, definizioni eccessive. Perfetto esempio di come la polemica a tutti i costi spesso non fa bene all'opposizione e non lei del governo. Conclusione, dunque, attenzione a non parlare per chi non ha la nostra stessa condizione, la nostra stessa voce. Quelli che con 40 euro si comprano 3 caffè e le sigarette probabilmente non si rendono conto dell'ammontare di privilegio che è contenuto in questa frase, e da questo punto di vista l'Annunziata secondo me ha perfettamente ragione. Della Valle, ieri ospite ad Anno Zero, e stiamo parlando dell'imprenditore delle scarpe, proprietario della Fiorentina, paga i giocatori un sacco di soldi, i giocatori della sua Fiorentina, però un po' se ne scandalizza, si vergogna un po'. Noi siamo proprietari della Fiorentina, che è una squadra di calcio. Abbiamo voglia di fare il calcio, abbiamo voglia di vincere, i nostri tifosi hanno voglia che si vinca, però io non le nascondo, e penso di poter parlare anche a nome di mio fratello, che poi è lui che la segue, che c'è un po' di imbarazzo nel vedere gli stipendi dei giocatori di calcio, pensando che quelli che sono in curva pieni di entusiasmo guadagnano 1.000 euro al mese. Dobbiamo ricominciare a mettere a posto tutte queste cose. Quindi È il momento di dare dei segnali concreti, ma anche simbolici forti. E si prende pure gli applausi. Aspettiamo naturalmente adesso, nei prossimi giorni, un atto simbolico da parte di Della Valle sugli stipendi dei calciatori della Fiorentina, perché l'ha annunciato lo stesso Della Valle. A proposito sempre di anno zero, Casini, Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, che lo sentirete fra poco, parla di un paio di questioni, soprattutto del blocco delle tariffe della luce. Secondo Casini è addirittura controproducente, sentite. Stiamo parlando di bloccare le tariffe della luce. Blocchiamo le tariffe della luce? Cioè vuol dire che stanno scendendo le tariffe perché il petrolio sta andando in basso e noi blocchiamo le tariffe. Paradossalmente facciamo facciamo un danno al consumatore visto che le tariffe stanno abbassandosi. Naturalmente, perché il prezzo del petrolio si sta abbassando. E poi un pizzico di populismo: bisogna che la politica, gli stipendi dei politici, a questo si riferisce Casini, e anche quello dei conduttori televisivi della RAI naturalmente, perché si rivolge a Santoro, e bisogna che si dia un segnale da questo punto di vista. Sentiamo ancora Casini. Vogliamo essere sinceri, Santoro? Ah, io provo ogni tanto. Forse è un problema anche che riguarda me e lei, forse riguarda anche la politica, i politici, i deputati, i conduttori televisivi. Forse qualche segnale generale in questo momento, nel nostro piccolo, non risolveremo il problema della... Però sarebbe un segnale interessante, bisognerebbe pensarci seriamente. C'è anche da commentare l'iniziativa del comune di Spresiano, provincia di Treviso, giunta leghista, in particolare dell'assessore ai servizi sociali Manola Spolverato, che saluto, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, abbiamo letto sui giornali, non solo locali, anche nazionali, bonus di 2.000 euro agli immigrati che se ne vanno. Vogliamo spiegare meglio, perché alcuni hanno capito, ma lei non è d'accordo con questa interpretazione, e naturalmente lei lo sa perché ha scritto questa norma, questa disposizione, che non si tratta di allontanare gli immigrati che si trovano senza lavoro, che perdono il lavoro, dal paese per non si sa dove. 2.000 euro per chi vuole lasciare l'Italia, è così? Alcune precisazioni. Innanzitutto, noi non siamo una giunta leghista, la nostra è una lista civica. Sì, vabbè, d'accordo. Okay. Lei è della Lega però, no? No. Non è della Lega, benissimo. Assolutamente, mai stata della Lega e né di nessun altro lista partito. Civica, c'è la Lega come all'interno della giunta? No, assolutamente. Appoggiata dalla Lega? No, nemmeno. Di ispirazione leghista? Nemmeno. D'accordo. Assolutamente. Il bonus non è previsto per trasferirsi dal nostro... Scusi comune. Un attimo, no, voglio precisare però. Lanza di ieri, l'assessore all'assistenza sociale della giunta leghista di Spresiano. Sbagliato Lanza, voi non avete niente a che fare con la Lega? Io non sono leghista, non sono mai stata iscritta al partito leghista e nessuno della nostra lista ha alcuna tessera di partito in tasca. D'accordo, prosegua. Ok, questa mi sembrava una precisazione doverosa. Sì, che però lei non ha fatto finora, sulle agenzie di stampa e nient'altro. Cioè, è passato il fatto che la giunta leghista di Spresiano abbia adottato questo provvedimento, dopodiché poi non si è sentito nulla fino adesso. Quando io ho letto sul giornale che siamo una giunta leghista, sì, ho fatto presente al giornalista di quella testata che era uscita un'informazione non corretta. D'accordo, perfetto. Okay. Questa è la prima precisazione. Sì. Stiamo poi lavorando a questa proposta. Non è stato ancora scritto nulla, ci stiamo lavorando e speriamo di uscire con delibere di giunta entro la prossima settimana. Sì, a parte i dettagli, l'intento qual è? Cioè quello di mandare via le persone perché non pesino sul bilancio comunale? Ma detto in estrema sintesi, sì, sostanzialmente sì. Le famiglie di stranieri che si stanno rivolgendo in questo periodo al comune di Spresiano, ai servizi sociali di Spresiano, prospettano una situazione estremamente difficoltosa legata alla perdita del posto di lavoro. Quindi arrivano con lettere di sfratto per morosità, alcuni hanno già avuto l'interruzione nell'erogazione del gas o dell'acqua o non riescono a pagare le utenze. Quello che noi abbiamo fatto finora per le famiglie in difficoltà è stato aiutarle con i generi alimentari e al momento dello sfratto esecutivo trovare una sistemazione di emergenza per le mamme e per i bambini. Questa soluzione costa al comune per nucleo familiare, per mamma e figli, dai 2 ai 3.000 euro al mese. Misurato l'incremento dei casi, perché le porto un esempio, soltanto ieri ho ricevuto 4 o 5 famiglie straniere con una lettera di sfratto, sì. Abbiamo fatto questa riflessione, quello che si può fare per qualche caso isolato, sì. Quindi la scelta che è economicamente sostenibile per qualche caso isolato, non lo è più se il numero di questi casi aumenta così in modo significativo. Ci siamo chiesti che cosa si potesse fare, sì. E conti alla mano ci è sembrato percorribile solo questa strada. A me è sembrata percorribile solo questa strada. Ecco, ma queste persone dove dovrebbero andare? In un altro paese o fuori dall'Italia? Ma l'idea di passare un cerino acceso da un comune all'altro può essere utile per provocare, però certo l'intento non è quello di dare un incentivo economico per un trasferimento di qualche chilometro, ma per aiutare queste persone, per consentire a queste persone che hanno finito o stanno proprio per finire risorse economiche a rientrare nel paese di origine. Scusi, però che differenza c'è da questo punto di vista? Perché perdono il lavoro anche italiani, non solo stranieri. Perché invece voi fate una norma ad hoc che riguarda gli immigrati? Le dico questo perché sì. Naturalmente il Partito Democratico ha detto si tratta di un provvedimento razzista, anche la UIL, leggo sulla tribuna di Treviso, chiede le sue dimissioni, intollerabile che un amministratore pubblico strumentalizzi l'indigenza. Allora, prima risposta, sono persone che sono in Italia con un permesso di soggiorno di lavoro. È stato detto da subito, quando viene concesso un permesso di soggiorno per lavoro, mi chiedo, nel momento in cui il lavoro viene perso, come bisogna considerare questo permesso di soggiorno? Ma queste sono norme nazionali, però in questo caso non è che può intervenire un comune per decidere se queste persone devono andare via dall'Italia No, infatti io non posso obbligare nessuno. Però lei dice dà un incentivo. Io do un incentivo, sì, questo posso farlo, posso prevedere un contributo perché le persone, se vogliono, possano trasferirsi nel paese d'origine, ma guardi che questo mi è stato detto da alcuni che sono venuti in appuntamento. Sì, ho capito. Quanto pensate di risparmiare? Conti alla mano. Sì. Se per un nucleo familiare spendo 3.000 euro al mese. Sì. E questo nucleo non si attiva nel trovare una sistemazione abitativa, una soluzione abitativa autonoma, proprio perché non riesce il capofamiglia a rientrare nel mondo del lavoro, sì. Posso anche ipotizzare di dover affrontare questa spesa un anno intero, almeno. Se moltiplico, quindi circa 30.000 euro l'anno, se lo vado a moltiplicare per 2, per 3, per 4... i conti sono facili da fare. Se invece arrivo a spenderne 2, 3, questo però deve essere definito perché noi questo lo stiamo studiando, ecco che vado a risparmiare 25, 26, 27 mila euro in un anno per nucleo familiare. Ho capito, come risponde brevissimamente alle accuse di una proposta ad hoc solamente per gli immigrati, una proposta insomma che puzza un po' di razzismo, come risponde a questa critica? Che non sono razzista, che se fossi razzista avrei fatto finta di non vedere il problema e avrei lasciato queste famiglie con la loro lettera in mano senza pensare ad una soluzione. Quando loro vengono da me io mi metto nei loro panni e penso di non avere, che se io fossi loro non saprei proprio che cosa fare. Non hanno una vera rete familiare che li possa sostenere, non hanno dei risparmi da parte. Ho capito, la ringrazio. TG3 non aveva sigla questa sera, non aveva cioè titoli più che sigla, e andiamo a sentire allora quelli di Sky TG24. Nuova edizione del nostro telegiornale, andiamo a vedere i titoli. Mumbai, incubo finito per gli italiani, sono tutti liberi e stanno bene. Blitz al centro ebraico, uccisi 5 ostaggi, si aggrava il bilancio, 151 morti. La storia eroica del cuoco che ha sfidato i terroristi per salvare la sua bimba. L'allerta di Maroni, altissima attenzione alla sicurezza, Frattini dice nessuna minaccia specifica. Il governo approva il decreto anticrisi tra le misure bonus famiglia e un tetto per i mutui.

Quindi voglio dire, sì. Quindi è il momento proprio, è il momento di dare dei segnali concreti ma anche simbolici forti. Aspettiamo dunque una revisione dei contratti dei giocatori della Fiorentina nei prossimi mesi. Pier Ferdinando Casini e il suo stipendio e anche quello dei conduttori dice bisogna dare qualche esempio. Vogliamo essere sinceri, Santoro? Ah, io provo ogni tanto. Forse è un problema anche che riguarda me e lei. Forse riguarda anche la politica, i politici, i deputati, i conduttori televisivi. Forse qualche segnale generale in questo momento, nel nostro piccolo, non risolveremo il problema della... Però sarebbe un segnale interessante, bisognerebbe pensarci seriamente. Sempre Casini sul blocco delle tariffe della luce, del gas, oggi è stato deciso, tranne che per l'acqua, sentitelo. Stiamo parlando di bloccare le tariffe della luce. Blocchiamo le tariffe della luce? Cioè vuol dire che stanno scendendo le tariffe perché il petrolio sta andando in basso e noi blocchiamo le tariffe. Paradossalmente facciamo non un favore, facciamo un danno al consumatore visto che le tariffe stanno abbassandosi. Naturalmente, perché il prezzo del petrolio si sta abbassando. Nel comunicato della Presidenza del Consiglio si legge le tariffe vengono bloccate o ridotte per tutte le forniture abituali, fuorché l'acqua, fino al 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno anche diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale in aiuto ai lavoratori pendolari, eccetera, eccetera, eccetera. 19.25, il caso di Spresiano in provincia di Treviso, 2.000 euro per andare via a quelli extracomunitari solamente, comunque stranieri che rimangono senza lavoro. La Giunta innanzitutto, precisazione importante, non è leghista, l'assessore che abbiamo sentito poco fa è l'assessore Manola Spolverato. Alcune precisazioni. Innanzitutto noi non siamo una giunta leghista, la nostra è una lista civica, non è stata della Lega e né di nessun altro lista partito. Civica, c'è la Lega come all'interno della giunta? No, assolutamente. Appoggiata dalla Lega? No, nemmeno. Di ispirazione leghista? Nemmeno. D'accordo. Assolutamente. Lista civica dunque, non Lega come hanno titolato molti giornali. In cosa consiste? Perché questo provvedimento? Conti alla mano. Sì. Se per un nucleo familiare spendo 3.000 euro al mese. Sì. E questo nucleo non si attiva nel trovare una sistemazione abitativa, una soluzione abitativa autonoma, proprio perché non riesce il capofamiglia a rientrare nel mondo del lavoro, sì. Posso anche ipotizzare di dover affrontare questa spesa un anno intero, almeno. Se moltiplico, quindi circa 30.000 euro l'anno, se la vado a moltiplicare per 2, per 3, per 4, i conti sono facili da fare. Se invece arrivo a spenderne 2, 3, ecco che vado a risparmiare 25, 26, 27.000 euro in un anno per nucleo familiare. Massimo da Verona, buonasera. Buonasera. Dica. Allora io intervengo sul caso dei compensi al commissario liquidatore di Alitalia, il dottor Fantozzi. Sì. Lei aveva chiesto un'opinione ai radioascoltatori. Dica, Massimo, certo. Ma io credo che la legge fissa dei compensi, però fissa anche la possibilità a chi dà l'incarico di commissario governativo in una situazione come oggi difficile economicamente e con una Alitalia così malmessa sotto il profilo economico, tutti dicono che era già fallita 10 anni fa, di concordare un compenso sicuramente inferiore. Un compenso intorno, per esempio, si parla di 15 milioni di euro, se fosse intorno ai 2 milioni di euro sarebbe già un compenso altissimo, comunque parametrato alla delicatezza dell'incarico e più opportunamente parametrato alla difficile situazione economica di tutti noi in Italia. Si poteva contrattare secondo lei? Maurizio... Sì. Dico un'altra cosa, io mi auguro che l'abbiano fatto. Però fino adesso non è venuto fuori, se fosse stato contrattato sarebbe venuto fuori un contratto, uno stipendio, invece Fantozzi si limita a dire c'è la legge e secondo le norme di quella legge si dovrebbe arrivare a una cifra di questo tipo. Maurizio dalla Spezia. Buonasera. Dica. Sempre sulla questione del compenso al commissario straordinario, innanzitutto la normativa sulla... l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi prevede con la legge 166 del 2008 che il compenso sia determinato da un decreto della Presidenza del Consiglio, del Ministro delle Attività Produttive. Quindi per il momento non credo che sia ancora stato emanato, altrimenti si conoscerebbe. In ogni caso, per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in cui precedentemente comunque il compenso dell'amministratore straordinario non è solo il caso dell'Alitalia, naturalmente ci sono centinaia di grandi imprese in crisi, il compenso del commissario straordinario è sempre stato determinato su una base di decreti ministeriali che prevedevano peraltro gli stessi criteri per la determinazione del compenso dei curatori fallimentari di un qualsiasi impresa in stato di insolvenza dichiarata fallita da qualsiasi tribunale d'Italia, cioè una percentuale sull'attivo liquidato e una percentuale molto minore sul passivo. Sì, per arrivare alla conclusione, Maurizio, è realistica la cifra che si è fatta secondo lei o no? Il realismo sulla cifra che si sia fatta naturalmente non lo può sapere nessuno, perché nessuno penso che conosca se non i protagonisti le cifre della... Ho capito. Allora alle 19.35 800 24 00 24 riprendiamo con Maurizio dalla Spezia, con cui stiamo parlando del compenso del commissario Fantozzi. Allora Maurizio, lei diceva se le leggi sono quelle naturalmente non si può fare altrimenti, ed effettivamente ieri nella sua spiegazione tecnica affidata ad una nota di agenzia, anzi forse stamattina, Fantozzi ha detto c'è la legge, io non prendo nulla, il periodo può durare anche 7 anni, dopo sarà sulla base di quello che succede la Presidenza del Consiglio con un decreto a pagarmi. E dunque le cifre sono totalmente inventate, dice Fantozzi, è così? Ma ripeto, le cifre le può conoscere solo chi conosce effettivamente i conti dell'Alitalia. È presumibile però che si farà riferimento a dei criteri oggettivi che, ripeto, sono quelli fino adesso sono sempre stati la liquidazione, l'attivo liquidato e il passivo accertato, e che danno poi la determinazione del compenso. Il fatto che si faccia riferimento a dei criteri di carattere oggettivo mi sembra che tolga in gran parte la connotazione scandalistica, sì, sì, a una cosa di questo genere. Anche se le cifre alla fine dovessero essere quelle là, 15-16. Anche se le cifre dovessero essere quelle là, io vivo la realtà di un tribunale di provincia perché faccio l'avvocato. E vedo che nelle procedure fallimentari ci sono a volte dei compensi che sono parametrati naturalmente a quelle che sono la delicatezza dell'incarico, l'importanza e la rilevanza economica, sono a volte estremamente rilevanti, e non mi sembra che ci sia nessuno scandalo. Se uno lavora bene, questo poi bisognerà vederlo, e ha una corrispondente responsabilità, perché Fantozzi si è trovato sulle spalle la responsabilità di gestire un'impresa che ha quante migliaia di dipendenti, decine di migliaia di dipendenti. Anche se è stato sollevato da una responsabilità penale, sappiamo, eccetera, eccetera. La responsabilità penale è una cosa, la responsabilità civile, la responsabilità amministrativa è un'altra, mi sembra che... No, comunque si tratta di un impegno certamente gravoso, per carità, insomma su questo non c'è dubbio. Poi uno può considerare nell'ambito di tutta la vicenda d'Italia eventualmente 15 milioni di euro. Oggi Libero faceva il paragone con quanti soldi ha preso il commissario di Parma, la Tabondi, faceva la cifra di 32 milioni di euro. Nessuno si scandalizzò all'epoca, nemmeno gli azionisti, diciamo, gli azionisti penalizzati di Parmalat, no? Ripeto, sono criteri di carattere oggettivo, una percentuale sull'attivo liquidato è una percentuale molto inferiore peraltro, perché naturalmente lei sa perfettamente che altra cosa è il passivo accertato, perché il passivo accertato può anche essere rilevantissimo, no? Poi si può non dare soddisfazione ai creditori perché la liquidazione dell'attivo porta a cifre che non consentono la soddisfazione di coloro che si sono insinuati. Sì, no, ma ho capito perfettamente. La ringrazio. Maurizio Giovanni, provincia di Treviso. Buonasera. Sì, buonasera, sono Giovanni e Tresiano, anch'io, stesso paese. Sì. Assessore. Non si sente nulla, andiamo a Bergamo. Gianluigi, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire relativamente alla frase di Casini che ha anche accennato lei prima, riguardo il calo della componente energia. Sì, anche se c'è, anche se insomma qualche sito dice bloccate le tariffe, in realtà se poi uno va a vedere non è proprio così, cioè non è una cosa un po' più complicata, non c'è un blocco delle tariffe, non possono aumentare però possono scendere, cioè non è che se scendono poi viene bloccata in alto, diciamo, l'asticella, esatto, delle tariffe, insomma. Innanzitutto, poi due, secondo me non caleranno perché, perché prima di tutto è difficile rientrare nei propri parametri. Cioè, le faccio due esempi molto, molto banali. Io ho acquistato una DSL tempo fa a 19,90 euro, una cifra che adesso non esiste più sul mercato. Sì, però questo non c'entra niente con le tariffe dell'energia elettrica, del gas, eccetera. È vero, però è anche vero che queste tariffe qui non sono più tornate su quei livelli, nel senso che sono state portate tutte, cartello o meno che dir si voglia, sì, a 29 euro e non sono più tornate indietro. Perché? Perché probabilmente l'abitudine ad incassare dei soldi in questo modo è difficile a perdersi. Il stesso discorso vale per la benzina. Cioè, quando aumentava indiscriminatamente il petrolio, di conseguenza aumentava anche il gettito che prendeva lo Stato attraverso l'IVA, perché quello era matematica, cioè il 20%, quindi l'IVA aumentava di conseguenza. Lo Stato non ha fatto delle manovre per togliere le accise, che sono una componente fissa, per tenere comunque a freno l'aumento. Sì, però perché lei sta parlando anche qui di un altro discorso che riguarda la benzina. Qui stiamo parlando invece, cioè il punto sono le altre tariffe, a parte l'acqua, su cui non c'è nessun provvedimento. Sulle altre tariffe ci sono dei provvedimenti che riguardano il caso in cui dovessero alzarsi, diciamo, le tariffe, no? Esatto, appunto, quindi io dubito seriamente che questo taglio, come ha detto Casini, crei un problema addirittura agli italiani. Questo blocco. Secondo me, esatto, questo blocco qui non creerà un problema, creerà un beneficio nel momento in cui tenderanno ad alzarsi, e prima o poi succederà, secondo me, comunque con l'andare del tempo, e in ogni caso non crea nessun problema nel momento in cui si abbassano. Quindi per cui era quasi un un propositivismo al contrario, cioè lui diceva no, non fatelo perché facciamo danno, mentre in realtà secondo me non c'è nessun danno. D'accordo Gianluigi, la ringrazio. Andiamo a sentire Olga da Roma, buonasera. Buonasera, io sono un dipendente pubblico, sì, e volevo fare soltanto una piccola domanda, ma di questi 40 euro che verranno dati a pensionati, poverini, insomma quelli che sono a 500 euro al mese, tra cui mia madre e tutto quanto, però io penso che ne soffriranno anche quelli che sono gli evasori fiscali, quelli che denunciano 6.000 euro mentre invece sono orefici, tutta quella categoria di persone che praticamente passeranno a prendersi 40 euro al mese, penso. Lei che ne pensa? Guardi Olga, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, è possibile naturalmente, qualora le verifiche che verranno fatte in base all'ISE, dunque bisogna portare anche o dichiarare comunque il proprio conto in banca, insomma ci sono diversi criteri che dovrebbero eliminare questa possibilità. Io poi non credo che la richiesta venga fatta della social card venga fatta dai gioiellieri, ecco, per quelli che non è effettivamente bisogno. Io non credo, a parte i gioiellieri, non è detto che siano evasori, per carità, non vogliamo accusare la categoria. Lei fa riferimento ad un'inchiesta che fu fatta tempo fa sull'evasione tra alcune categorie, però insomma voglio dire, io non credo che chi davvero non ha bisogno e chi è un evasore fiscale poi faccia la richiesta per la social card, perché attraverso quella richiesta tra l'altro potrebbe essere scoperto, per cui insomma questo mi sembra piuttosto difficile. Olga? Dico, viene fatto automaticamente oppure deve essere una richiesta per... No, ci deve essere una richiesta, per cui, per cui insomma, questo già, ripeto, poi ci sono dei controlli e mi sembra difficile, come è stato detto, per criticare questo provvedimento, che ne possano approfittare anche gli evasori fiscali. Certamente un pericolo c'è, una possibilità c'è, però mi sembra lontana da quello che abbiamo capito in queste ore. La ringrazio. Gianni da Milano. Buonasera Gianni, poi cerchiamo di recuperare la telefonata con Treviso. Gianni, prego. Sì, pronto, buonasera. Ma io chiamavo perché ho sentito da metà in poi l'intervento dell'assessore di quel, penso, comune del Veneto, dall'accento, e volevo capire il discorso di una famiglia che riceve appunto dal comune 3.000 euro al mese, e da lì la proposta di risparmiare per dando un contributo a questa famiglia, il cui capofamiglia ha perso evidentemente il lavoro, perché rientri, famiglia di immigrati ovviamente, perché rientri, diciamo, nel suo paese. Cioè, volevo capire, insomma, ho sempre saputo che il welfare in Italia è piuttosto parco nel dare. In questo caso mi stupisce un attimo. Perché... Beh, 3.000 euro al mese forse è un po' troppo. Quello che ha detto l'assessore è 2.000 euro a famiglia ci costa meno che garantire i contributi alle famiglie in difficoltà. Evidentemente ci sono dei paesi, delle regioni che garantiscono poi attraverso i comuni degli aiuti, dei contributi alle famiglie in difficoltà che perdono il lavoro. Si tratta di contributi comunali riservati alle famiglie che perdono il lavoro, eccetera eccetera. Anche a me è sembrata una cifra un po' eccessiva, però no, ma questi contributi sarebbero un guadagno in contrasto con il contributo mensile che a queste famiglie indigenti il comune dà, e l'assessore ha detto chiaramente che parliamo di 30-35 mila euro all'anno dovute da 3 mila euro al mese. Cioè, e questo è un po' la cosa che mi ha stupito. Il contributo di 2-3 mila euro per il rientro nel proprio paese, certo che è un guadagno, messa giù così. Però è stupefacente il contributo di 3 mila euro mensile. Abbastanza stupefacente. Fermo restando che io sono a favore del welfare, sono d'accordissimo che le persone, io grazie al cielo non ne ho mai avuto bisogno, però detto questo mi domando, cioè se un capo famiglia perde il lavoro e il comune gli dà 3.000 euro al mese, mi domando chi lo andrà poi a ricercare questo lavoro, perché cioè 3.000 euro al mese ci sono persone che insomma non è uno stipendio comune. No, ma non credo che fosse quella la cifra, forse era un calcolo diverso. Comunque ci informiamo subito, poi le facciamo sapere in diretta e ritroviamo l'amico Fulvio Abate. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Eccoci qui. Allora, prima cosa, primo commento sullo snobismo che ho sentito, almeno io l'ho considerato in questo modo negli ultimi due giorni, da parte di una certa sinistra. Insomma, tu me lo puoi dire, ci puoi dire sopra qualcosa, perché vieni insomma da quell'ambiente lì, insomma. Sì. E riguardo alla storia della social card, della carta acquisti, ieri l'Unità, giornale in cui scrivevi fino a qualche settimana fa, dopo essere stato tra virgolette, anzi no, senza le virgolette, cacciato dal direttore Concilia De Gregorio, ha detto elemosina. Che dici tu? Allora, è una vecchia concezione, nel senso che nella concezione della sinistra, diciamo, il buono pasto viene visto come una sorta di elemosina. Uno può invece nel sentire comune è meglio del niente, diciamo così. Sì. Però chi ha un progetto complessivo di mutamento del reale lo percepisce in questo modo, come la Befana fascista, come i pacchi dell'opera San Vincenzo, ecco. E in realtà poi la sinistra che dice un'elemosina, poi il PD non è sinistra, è un partito di centro, così con una forte connotazione al centro, musica leggera per ceti medi, medi in tutto, io così lo definisco. Sinceramente dovrebbe la sinistra, se esistesse, ribattere proponendo l'abolizione del lavoro, definitivamente, l'obiettivo massimo, non lo farà. Però anche una giunta, diciamo, nordista vicina, forse, anche se poi ci sono smentiti, alla Lega, una lista civica in provincia di Treviso, vuole dare 2.000, e anche qui critiche dalla sinistra, 2.000 euro agli immigrati che perdono il lavoro per andarsene, perché dicono ci costerebbe molto di più. E ognuno, ad esempio, l'MSI Fiamma Tricolore della Basilicata ti dà 1.500 euro se tu chiami il figlio Benito o la figlia Rachele. Quindi ci sono molte offerte. È un periodo di offerte. Prendiamo quella che è più conveniente. Io mo è Benito, lo chiamo Benito e mi piglio sti soldi, che devo fare? Sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo subito con Fulvio Abate. Andiamo a Walter, Venezia. Walter, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Senta, io volevo parlare un attimino della crisi, molto velocemente. Una mia opinione personale. Allora, io la riscontro tutti i giorni facendo il direttore commerciale di un'azienda. In realtà la crisi, secondo me, è molto più finanziaria, non è ancora arrivata come sull'economia reale. questa è la mia opinione, però credo che sia accentuata in maniera esasperante dai mass media. Molte volte si sente anche alla radio, alla TV, che dicono cerchiamo di non fare del disfattismo perché altrimenti gli ascoltatori ci si arrabbiano. L'altro giorno, ascoltando la radio, la stavo ascoltando e diceva: ma la borsa perde il 6%, quindi bruciati 450 miliardi di capitalizzazione. Il giorno dopo la borsa ha perso il 4%, bruciati 300 miliardi di capitalizzazione. Due giorni fa la borsa recupera il 6,6%, nessuno mi dice quanto recupero in capitalizzazione, ma la notizia successiva è sì, però l'Italia perde di competitività. Cioè, che la borsa perda, la borsa guadagna, qui ci perdiamo sempre. Voglio dire, per essere un po'... Cioè, la sua tesi è che i media amplificano la crisi, mi sembra un po' grossa questa. No, nel senso che sicuramente c'è la crisi, non è che non sto dicendo che non ci sia, però non voglio dire che Berlusconi ha ragione nel dire che bisogna essere tutti ottimisti, bisogna mangiare e bere come se fosse tutti i giorni Natale per risolvere la crisi, però un briciolo di più ottimismo, cioè parafrasando le informazioni che stiamo sentendo in questi giorni al telegiornale, ai mass media e quant'altro, cioè liberati i 7 ostaggi in India, ritornano a casa, rischiano di morire di fame perché c'è la crisi, cioè mi sembra una cosa un po'... vorrei dire, le notizie dovrebbero essere, secondo me, reali, né disfattiste né entusiasmanti, un pochino più di parsimonia nell'informare, credo. Moriremmo tutti di noia, forse, non faremmo più trasmissioni, eccetera, eccetera. La ringrazio, Walter. Allora, Abate, però io voglio chiederti una cosa, perché mi sembra che Luxuria l'hai inventato tu, o sbaglio? È vero, è vero. Ma com'è possibile? Non hai qualche rimorso da questo punto di vista? No, molto semplicemente devo raccontare l'episodio. Certo. 10 anni fa c'era l'elezione del Presidente della Repubblica ed era il 99 per la verità, ora che ci penso, e alcuni dissero una donna, la Bonino, altri dissero un uomo, Ciampi, anche di Marini si parlava, e io dissi dalla mia televisione, Tele 2 Ruti, che allora andava in chiaro in un canale che era una vera parafitta dell'emittenza romana, dice, ma mi sembrano posizioni estremistiche, mentre noi vorremmo una posizione centrista, perché un uomo, perché una donna, un transessuale, e lanciai la candidatura, un transessuale al Quirinale. Sentiamo un po', Luxuria. Sentiamo, forse abbiamo qualcosa, sentiamo. Buonasera Vladimir Luxuria, insomma questa è una serata importante perché è la serata decisiva e noi ribadiamo insomma la nostra posizione. Come hai vissuto in questi mesi questa avventura? L'ho vissuta un po' con lo spirito di questi tempi, con lo spirito della cultura di questi tempi, con uno spirito New Age, quindi in maniera soprattutto superficiale, abbastanza superficiale. Fulvio, 99, eh? 99, e quindi lanciai questa cosa. Ed era meraviglioso perché facemmo 5-6 serate e si crearono dei comitati di sostegno, una festa mucca assassina alla discoteca gay di Roma. Ed era meraviglioso perché le persone fermavano Vladimir Luxuria per strada e gli dicevano: te votamo, ma come te votamo? Mica lo voti tu il Presidente della Repubblica, questo per dire il livello. E quindi ho la responsabilità, diciamo, politica di avere indicato un orizzonte possibile. Fra l'altro il patron di Teleambiente, dove andava Tele 2 Ruti, essendo egli consulente economico, mi pare, al Senato, aveva anche garantito dei voti negli scrutini iniziali, che poi non andarono perché poi tutti conversero su Ciampi. Comunque, beh, insomma, forse è stato meglio. Forse è stato meglio, non lo so. Insomma, è un dato, poi diciamo francamente, Luxuria, il dibattito è molto chiaro. Luxuria è un personaggio assimilabile a Via Fornovo. Voi direte, cos'è mai Via Fornovo? Cos'è? È la sede dove ha luogo il collocamento dello spettacolo, punto. E questo innamoramento, entusiasmo in realtà novello della estrema sinistra nei confronti di Luxuria dopo aver criticato la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, come la giudichi? Allora, io sarei molto più laico. La sinistra sta a quella lì, diciamo, antagonista, Rifondazione, quegli altri sta all'ammazza caffè, diciamocelo francamente. E a un certo punto ha visto in Luxuria un volto che diciamo come un collante. In realtà io credo che se tu sei un giovane ricchione, una giovane lesbica, il fatto che Luxuria abbia vinto è un momento di soddisfazione per te, perché puoi sventolare questa bandiera, lo dico senza ironia, sì, rispetto agli insulti del quotidiano, che puoi vivere sia in famiglia sia fuori, in un mondo sessuofobico che vede l'omosessualità ancora adesso sovente come fumo negli occhi. Quindi tutto sommato è una buona notizia. A presto, ciao. A prestissimo. 19:54, Giovanni, provincia di Treviso. Abbiamo recuperato l'ascoltatore, che non capisco se se, lo voleva se la voleva prendere col suo assessore, l'assessore Spolverato, oppure concorda con questa, con questo provvedimento 2000 no, euro per mandare via, diciamo, quelli che perdono lavoro. Non concordo per niente, perché dicevo che questi immigrati, l'assessore Spolverato e il sindaco, se li sono portati a casa perché hanno fatto un diciamo, ha dato possibilità di fare agli imprenditori tutti gli appartamenti, tutte quante le case, una cosa assurda, hanno proprio divorato il territorio con questi appartamenti, e cosa, di conseguenza bisogna pur venderli a questi appartamenti, bisogna pur affittarli, e chi è che arrivava? Mica le giovani coppie che si sposavano italiane, arrivavano tutti gli stranieri. Cioè lei dice, prima li hanno voluti, adesso li vogliono cacciare. Adesso che scappanti gli stranieri con l'appartamento di quegli anni che costava abbastanza, lo dividevano in 5, in 7, in 8 persone, non la coppia magari di sposi nuovi, no? Di due persone, sì, no, sì. 7, 8. Bene, proprio questi qua dobbiamo trovare il lavoro. Allora c'era il boom del lavoro, c'era il boom. Più che altro si lavorava, ancora adesso si lavora bene. Sì, ma io rimango sempre alla domanda dell'ascoltatore di prima. Com'è possibile il calcolo? Perché questi soldi devono essere spesi? Mi scrivono, di fronte a 3.000 euro spesi ogni mese per ogni nucleo familiare indigente, comprensivo di affitto, cibo, ma non si capisce perché debba essere il comune a pagarlo. Quindi 3.000 euro per 12 mesi uguale a 36.000 euro per nucleo, conviene darne 2.000 una volta sola e via. Però mi risulta strano pensare che il comune si debba accollare tutte quelle spese, Giovanni. Ma non solo, non le hanno mai pagate, prima cosa, perché almeno una cosa avessero avuto qualcuno di altri 2.000 euro. No, prima cosa non è vero. Secondo, l'hanno fatto, siccome il sindaco è laureato in economia, ha fatto un calcolo. Se io do 2.000 euro a una persona, ma come 2.000 euro? Se io fossi un immigrato, andrei al comune e direi, dammi 5.000 euro subito e io vedrai che me ne vado via da un'altra parte. Ma che così sono qui, primo. Secondo, non so se ha sentito l'assessore, ha detto, ma non è passato, ci stiamo riflettendo, speriamo che la notte porti consiglio, perché c'è stata un'insurrezione popolare su questo. Come si fa? Siccome loro sono molto bravi sull'estetica, hanno fatto le serate, non ho mai sentito le serate. Sì, adesso non entriamo in quello che succede nel paese e provincia di Treviso. Lei dice non è vero che il comune deve dare ogni mese tutti quei soldi. Dunque non è vero che ci sarebbe un risparmio dando 2.000 euro, diciamo, al capofamiglia per andare via. No, non è mai successo questo. Poi fanno un calcolo, se io devo dare 2.000 euro a qualcuno, è meglio che dia subito qualcosa purché vadano via. Ma non è vero. Ho capito, Giovanni, questo lo chiariremo più avanti nel corso della trasmissione. La Zanzara. Eccoci qui, 21 minuti, andiamo a sentire subito i titoli del TG5. Bonus per famiglie e pensionati, agevolazioni sulle bollette e tetto per i mutui, oltre a sgravi per le aziende. Ecco tutte le misure del pacchetto anticrisi del governo. Berlusconi, guardiamo al futuro con fiducia e speranza. La nostra stella polare è l'interesse di tutti. Invito all'opposizione, basta polemiche, diamoci una mano per il bene del paese. Risposta fredda del PD. Liberati tutti gli ostaggi italiani a Mumbai, tra loro anche la mamma con la bimba di 6 mesi, ma si continua a sparare. 5 morti al centro ebraico, tra loro un rabbino e la moglie. Hotel Taj Mahal ancora sotto assedio. Branda, cuscino, tavolo e bagno. In esclusiva al TG5 la cella di Olindo Romano, disegnata da lui stesso con una precisione quasi maniacale. Smentite dagli avvocati le minacce di suicidio da parte della coppia. Allerta maltempo in tutta Italia, neve al nord, vento, pioggia e mareggiate. Altre 3 vittime in tilt ferrovie, autostrade e aeroporti. Bufere in Liguria. Bene, alle 22 minuti andiamo a sentire anche i titoli del TG1. Mumbai, tutti liberi gli italiani, ma ci sarebbero ancora ostaggi. Finisce in strage il blitz al centro ebraico, 5 morti. La caccia ai terroristi prosegue, si combatte nel Taj Mahal, uno degli alberghi assaltati, accuse dell'India al Pakistan. Il governo vara le misure anticrisi, bonus per 8 milioni di famiglie, tetto per i mutui a tasso variabile e interventi su bollette e tariffe. Berlusconi, siamo i primi ad agire, l'opposizione collabori, Tremonti al Tg1, in Italia il sistema è solido, Bersani chiedono aiuto a giochi fatti. A novembre in Italia inflazione al 2,7%, ribasso il record al 2,1% in Eurolandia, giù i prezzi dei carburanti. Nord Italia sotto la neve, disagi su autostrade e ferrovie, in Sicilia un furgone precipita da un viadotto, 3 vittime, ancora maltempo nel weekend. Bene, bene, non ci sono i titoli della 7, dunque andiamo a sentire Massimiliano da Piacenza. Massimiliano, buonasera. Sì, buonasera a lei, Cruciani. Dove si trova Massimiliano? Ma in realtà io sono di Piacenza, ma mi trovo tra Asti e Alessandria, sono in auto. Brutta zona, in queste ore. Ma sì, brutta zona in queste ore, diciamo che io è da circa, così, do una piccola testimonianza di quello che ho attraversato oggi, sono salito in auto alle 2:30, alle 14:30 e credo di aver percorso qualcosa come 25-30 km massima, ecco, da quell'ora. Vabbè, fin qua problema mio personale, però faccio una premessa: ieri io viaggio spesso su questa autostrada fra Asti e Piacenza, ieri sera nel rientrare c'erano allerta meteo che prevedevano comunque disagi, maltempo, eccetera. Sì. Io questa mattina sono ritornato su questa autostrada e con sommo stupore mi sono accorto che diciamo, nevicava, ovviamente c'è stata un'ondata di maltempo pesante, però che tutto quello che normalmente viene fatto anche nelle strade comunali, ad esempio nel comune dove abito io, le strade erano, sì, c'era neve, però erano abbastanza pulite il fondo. L'autostrada invece in alcuni tratti, anzi in molti tratti, non era stata evidentemente preparato, dato il sale o comunque trattata, questo a mio parere, non sono un tecnico, ma ne sono reso conto oggi, sull'asfalto. Nel rientrare, quindi ci ho messo 4 ore per fare un percorso che normalmente faccio in un'ora, 1:20. Sì. E nel rientrare ho ripreso la stessa autostrada, mi sono bloccato immediatamente, sono rimasto perché c'erano ovviamente tir, camion, macchine, una coda interminabile, non segnalata peraltro, subito dopo il casello, e niente, lì sono rimasto fermo per circa 3 ore, 3 ore e mezza, dopodiché si è ricominciati a partire. Allora, per me questo è un esempio del, ci lamentiamo poi spesso di tante cose, magari anche inutilmente, però dell'Italia che non funziona, diciamo, le società autostrade, che credo siano quasi tutte private o privatizzate, sì, che hanno anche dei pedaggi piuttosto salati, quello che io pago, vabbè, paga per me la. Vabbè, adesso non ci mettiamo a discutere sulle tariffe autostrade. Lei dice non ci sono state in questo caso non ci sono stati dei provvedimenti adeguati, delle contromisure adeguate, così? Mio parere no. Massimiliano, lei si dà un po' di colpa per il fatto che comunque, nonostante i vari allarmi eccetera, comunque lei si è messo in macchina, era proprio necessario? Sì, diciamo che io avevo purtroppo la necessità impellente di dover viaggiare comunque, non c'era scelta quella di viaggiare via treno, perché comunque le ferrovie su questa tratta non hanno un servizio, o meglio hanno una regolarità che mi permetteva di essere al lavoro, quindi ho dovuto prendere l'auto. Quindi sicuramente ho la colpa di aver preso l'auto. D'accordo, la ringrazio. Naturalmente aspettiamo anche le vostre telefonate, come vi ho detto saremo in onda ancora per un'ora rispetto al nostro orario, alla nostra programmazione tradizionale, fino alle 21:45, sempre sui temi e l'attualità di oggi, ma con un occhio particolare a quello che accade sulle strade italiane. Intanto un ascoltatore scrive: il signor Walter ha ragione, anche De Aglio giorni fa sulla stampa titolava: i media tifano per la crisi. Faccio il consulente finanziario, ditemi qual è il contrario di bruciato, visto che le borse dai minimi di ottobre recuperano in media il 15%. Grazie Giorgio da Pinerolo. Andiamo a sentire altri ascoltatori e andiamo in provincia di Lecco. Enrico, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, volevo intervenire a proposito di intervento dell'assessore della provincia di Treviso. Sì. Premetto che non ho una posizione ideologica su il tipo di intervento che prospetta di fare nei confronti degli extracomunitari, sì, di queste famiglie in difficoltà, e permetto anche che nell'ambito della discussione, o come ha esposto il problema, ponendosi anche dal punto di vista mettersi nei panni di queste famiglie disagiate sembrava anche quasi convincente da questo punto di vista. Il dubbio nasce da, appunto, dai 3.000 euro che costa a un'amministrazione comunale il gestire un nucleo familiare. Sì, ripeto, anch'io sono colpito da queste cifre, non riesco a capire in cosa consistono e soprattutto quali sono le voci, perché un'amministrazione comunale dovrebbe, rispetto ad un nucleo familiare il cui capofamiglia perde il lavoro, diciamo, perché deve sborsare una cifra di questo tipo? Io non ho mai sentito una cosa del genere, però evidentemente ci sarà del vero, spero. Ma o è frutto, come dire, della cattiva capacità di gestire da parte delle amministrazioni, perché c'è da dire anche questo, qualche caso sporadico nel momento in cui devo creare delle strutture che si dedichino a delle persone quando le strutture non ce le ho, magari in effetti qualche costo in più lo genera, è comunque una cifra spropositata, non è considerabile su base annua, insomma ci sono delle famiglie che vivono con molto meno di quella. Sì, no, non capisco, forse nel calcolo ci sono le spese, non riesco a capire, magari cercheremo, ripeto, nel corso della trasmissione di capire da dove viene fuori questo conto. Andiamo subito con Paolo da Torino, buonasera. Buonasera Crociani, salve. Dica. La ringrazio intanto, io così intervengo un attimino sul ragionamento e il discorso pubblicizzato con enfasi del programma di aiuti alle famiglie italiane da parte di questo pensionato che ci sta governando, no? Che ha molto a cuore l'aiuto degli italiani. Intanto i proclami del tipo io volevo detassare ma non ho potuto se li può anche tenere, cioè o lo fai o non lo fai, le dichiarazioni di intenti non credono che servono a nessuno, no? E questo lo passiamo in cavalleria. Però io vorrei capire una cosa. Io credo che l'unico paese, l'Italia, dove si parla di lavoratori dipendenti pensionati, quando invece, se lei ha presente molti film americani, dove ad esempio cercano di sfasciare qualcosa e dicono questi sono soldi pagati dai contribuenti. Perché? Perché i contribuenti sono tutti cittadini italiani, indipendentemente dal loro status di lavoratore, dipendente, pensionato, artigiano, certo, imprenditore. Certo. Allora, se esiste una famiglia in Italia di due contribuenti con tre figli che ha un reddito di 1.000 euro e una coppia di lavoratori dipendenti con lo stesso reddito, addirittura quello che non è dipendente paga anche più tasse perché non ha segni familiari, ha molto meno vantaggio. Però alla fine del mese i due ad mangiare il figlio devono andare entrambi. Ma allora io mi chiedo, dov'è la democrazia in questo Stato? Cioè, adesso parlare di democrazia mi sembra esagerato, però insomma lei punta il dito sul fatto che la classe media, il popolo delle partite IVA in realtà è quello più tartassato, no? Ma non è vero, perché partiamo dal presupposto che siamo tutti onesti, perché sennò possiamo dire tutto quello che vogliamo. Tutti i lavoratori autonomi in regime di ritenuta d'acconto, guardi che i soldi glieli tengono alla fonte, No, guardi che io sto dicendo la stessa cosa che sta dicendo lei, non è vero che cosa allora? No, voglio dire che il lavoratore autonomo è tartassato. Sì, sì, io quello volevo dire. No, mi scusi, allora ho compreso male, voglio dire. Quindi, se e io sto parlando... E lei dice che non c'è nessun provvedimento da questo punto di vista. Assolutamente, ma guardi, lei provi a sfogliare qualsiasi forma di aiuto, lei vedrà solo aiuti a pensionati e lavoratori dipendenti, Io lei faccio un esempio con la situazione francese. In Francia i figli sono sacri per il dipendente, per l'autonomo e l'assegno familiare viene dato a tutti. Ma mi sembra evidente, i figli, i bambini sono i contribuenti del futuro per uno Stato. La ringrazio Paolo, andiamo a sentire. Grazie, Andrea da Vicenza. Andrea, buonasera. Sì, buonasera, intanto la ringrazio di lasciarmi intervenire questa sera. Grazie a lei. Senta, niente, io ascolto spesso la vostra radio, sono un paio di giorni che sento sempre qualcuno nominare in modo un po' così ambiguo il discorso dei gioiellieri. Io da un lato mi ritengo fortunato di essere un gioielliere, dall'altro sembra che siamo quasi tutti dei banditi, degli evasori, che non paghiamo le tasse, mentre posso assicurare che purtroppo il nostro settore è abbastanza in crisi. Io conosco un sacco di colleghi che non vedono l'ora di vedere clienti a cui poter fare lo scontrino fiscale, consegnare il prodotto, dare la garanzia. E spesso e volentieri ci troviamo davanti a dei consumatori che, pensando di fare i furbi, chiedono no, non farmi la fattura, no, lascia stare, no, farmi lo scontrino, preferisco risparmiare. E questa è una cosa che onestamente molte volte non nasce neanche da noi gioiellieri o da qualche altra categoria, perché comunque tutte le categorie sono coinvolte. Nasce proprio dal fatto che il consumatore vuole risparmiare a tutti i costi e dice no, non farmi la fattura. Non è vero, ripeto, i gioiellieri fanno le fatture, battono gli scontrini. Il settore è in crisi, perché purtroppo è in crisi, e quando qualcuno incolpa i gioiellieri di dire fate delle dichiarazioni dei redditi che fanno ridere, in molti casi non è così. Noi ci fu una statistica, Andrea, ci fu una statistica, diciamo la leggenda nera, tra virgolette, io non so se sia leggenda nera oppure ci sia del vero, bisogna fare dei calcoli molto approfonditi da questo punto di vista, nasce da una elaborazione dei dati da parte dell'ANSA o dell'erario, adesso non ricordo bene, nel 2006, e il titolo di un articolo uscito sui giornali era questo: i gioiellieri e i titolari di bar dichiarano al fisco meno dei 21.500 euro dei maestri elementari ad inizio carriera. Si ricorda? Sì, mi ricordo di questo, però onestamente sono dati che forse bisognerebbe veramente toccare con mano, prendendo in considerazione vari tipi di negozi. Ci sono negozi molto seri che battono tutti gli scontrini, che non fanno una vendita a meno che non ci sia... No, ma certamente sono dati che tengono conto di alcune zone d'Italia. Adesso non ricordo bene qual era la cosa. Mi ricordo però quale fu la polemica intorno ai gioiellieri e perché è nata negli anni scorsi questa leggenda intorno alle dichiarazioni del fisco dei gioiellieri. In Consiglio dei Ministri pare che Berlusconi abbia detto non andate da Crozza, manca il contraddittorio. Da Crozza dove? A Ballarò, ma Crozza non è naturalmente il conduttore di Ballarò, né decide il palinsesto di Ballarò, lo svolgimento della trasmissione forse a Crozza Italia, ma Crozza Italia è evidentemente una trasmissione satirica. Pare bizzarro che Berlusconi in Consiglio dei Ministri si esprima su una trasmissione come quella di Crozza. Bene, andiamo a Roma. Salvatore, buonasera. Buonasera. Senta, no, io volevo, a proposito del fatto che bisogna consumare per evitare che ci sia la crisi più a lungo, come dice il Presidente del Consiglio, oltre a bizzarria di Crozza, e cioè se uno lavora da solo, è single, però ha uno stipendio di circa 1.000 euro, paga l'affitto e magari per sfiga deve prendere la macchina per andare al lavoro, non mi sembra che ci siano delle misure per queste persone, quindi che cosa è che dobbiamo spendere? E comunque non è una cosa relativamente a questa crisi, secondo me, ma c'è anche un anno fa, due anni fa, tre anni fa era uguale, quindi cioè se uno paga il 50% del suo stipendio in affitto, non so cosa deve spendere, questo mi chiedevo, quindi non è che non lo capisco. Cioè... No, ma Berlusconi parla di dice che si sta sgolando anche con gli altri partner europei per far passare questo messaggio di non cambiare i nostri stili di vita. Può sembrare magari offensivo in questo periodo, però credo che faccia parte, come dire, un po' del compito di un primo ministro che deve infondere ottimismo, eccetera, eccetera. Poi Berlusconi ce l'ha nel sangue questa cosa, no? Anche rispetto a quelli che sicuramente è una cosa buona per loro, a parte le modalità, insomma, che sono, si può discutere, come si dice, i 40 euro a uno che guadagna 6.000 euro all'anno, lordi, cioè non è che poi dopo va a fare i consumi pazzi con 40 euro. Beh, ho capito, però mi scusi, qui però torniamo alla considerazione che facevamo prima su un po' sullo snobismo. Per chi guadagna, no, 500 500 euro al mese, 40 euro al mese sono qualcosa o no? Sì, sì, sono qualcosa, ma anche la modalità della carta di credito. C'è venuto il sospetto che forse è perché se tu gli dai 40 euro sulla busta paga o sulla pensione, quello ci fa quello che gli pare. Se gliela dai sulla carta di credito deve per forza spendere in consumi. Questo è il punto. Secondo me la bizzarria sta lì, non è tanto... ma non è che consumi. Consumi significa anche il pane, la pasta, non è che sono consumi voluttuari quelli là, sono consumi essenziali. Che significa certo, 6.000 euro all'anno è difficile avere consumi voluttuari. No, appunto, allora dov'è il problema, diciamo? No, non è un problema, sto dicendo che la presentano semplicemente perché la presentano come se fosse il risollevamento dell'economia, ma non credo Scusi Salvatore, chi è che l'ha presentato come il provvedimento come che salva l'economia? Le famiglie, dove? Se uno ha 5 figli e guadagna 22.000 euro al mese, ma che deve fare? Ma quella è un'altra cosa però rispetto alla carta acquisti. È un provvedimento in più rispetto alla carta acquisti. Lo so, li leggo anch'io i giornali, però voglio sembra che adesso l'economia si risolleva, non si risolleva niente perché io continuerò a guadagnare 1.000 euro, a spendere l'affitto e quindi farò quello che posso, certo, normalmente come prima, ma non è che adesso io spenderò di più. Io conosco un sacco di gente che guadagna come me 1.000 euro, eh. Non è che è un'eccezione in Italia. No, ma assolutamente, Salvatore, però qui bisogna intendersi, io credo che nessuno abbia presentato da questo punto di vista. Io credo di essere abbastanza oggettivo. Non è che c'è qualcuno che ha presentato questi provvedimenti come quelli che risolleveranno l'economia italiana. C'è anche un modo di presentare questi provvedimenti che non è stato questo. E sono provvedimenti, diciamo, per i più bisognosi, che non naturalmente non risolveranno il problema di questi bisognosi, ma un sollievo. Credo che sia stato presentato in questo modo, non come la panacea di tutti i mali, o sbaglio? Ma quello, no, cioè, ma infatti io infatti mi riferivo al fatto che allora non lo leghiamo alla crisi economica, perché anche l'anno scorso, anche 2 anni fa e 3 anni fa, questi erano poveracci. Cioè io che guadagno 1.000 euro mi sento anch'io un po' povero, questa è la verità, questo che voglio dire, certo. Cioè, non è che c'è tanto da scialacquare con 1.000 euro al mese se paghi l'affitto. Cosa si sarebbe aspettato? Quando si fanno i conti a chi dare, diciamo, questo bonus familiare, non è che si viene conto se uno paga l'affitto, gliene può fregare di meno. Si va a vedere se c'ha 10.000 euro in posto in banca, perché lo trovo anche giusto, perché quei furbi che ci sono in Italia si beccano pure i 40 euro i miliardari qui, no? Questo è giusto. Però, capito, cioè, questo che voglio dire, non è che io mi auspico che a quelli di 6.000, 8.000 euro non gli dai, anzi, magari è pure poco, gli avrei dato di più. Cioè, non è che lo voglio paragonare a me che ho un lavoro comunque. Cioè, non mi voglio lamentare più di tanto, però di certo con 1.000 euro è difficile consumare tanto. Assolutamente, no, su questo non c'è dubbio. La ringrazio. Gianni da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Scusi, è la prima volta, quindi non sapevo che si intervenisse così di colpo. Benissimo. Allora, io mi ero prenotato per un intervento che tra l'altro si lega a questi precedenti. Io una volta tanto, invece di criticare, volevo fare i complimenti, come lei ci ha informato all'inizio trasmissione, a Lucia Annunziata, a Piero Sansonetti e magari spero ce ne siano altri, che obiettivamente di fronte ai 40 euro hanno rilevato che è sempre meglio di niente, voglio dire. Questo mi ha fatto piacere, perché si è talmente abituati a dichiarazioni di gente schierata che io parlo a destra e a sinistra, per carità. Sì, sì, certo. Ci siamo intesi, non è che. Però adesso c'è al governo il centrodestra ed è ovvio che le dichiarazioni schierate sono soprattutto dell'altra parte. Lei dice la sorpresa positivamente il fatto che due persone che sono di sinistra, diciamo, per semplificare così, una sicuramente una Piero Sansonetti, l'altra è un battitore libero come Lucia Annunziata, comunque certamente non simpatizzante di Berlusconi, abbiano detto perché tutto questo snobismo nei confronti della social card, della carta acquista. Piero Sansonetti, sono pensionato, se vuole poi ci torniamo anche, perché visto che si parla di soldi e di quattrini e di chi deve contribuire a risollevare il paese, avrei qualcosa da dire anche su quello, ma se non si può non ha importanza. Sì, normalmente appunto noi siamo abituati a sentire dichiarazioni che basta guardare o sentire o riconoscere dalla voce, perché appunto essendo pressionato ho tempo per informarmi, cioè basta vedere in faccia chi parla o sentire la voce e riconoscerlo che si sa già che cosa si sente, lo si sa già a priori. Ecco, non credo che questo sia buono per un paese, perché voglio dire, il cambiamento è dato da cose un po' diverse da quelle scontate, perché altrimenti... Assolutamente, sono d'accordo con lei Gianni. Andiamo a Roma. Antonia, buonasera. Buonasera signor Cruciani, io volevo parlare, mi dispiace, ancora del il compenso megagalattico che si ventila ventilato per Fantozzi. Sì. A parte che se c'è una legge, ci hanno dimostrato tutti i governi che come si fa, si disfa. Allora, siamo in un momento terribile per tutto il mondo, non per l'Italia, noi possiamo dire che ci siamo abituati. Allora si disfa, c'è questa legge e non la si fa, anche perché mi pare che Fantozzi in questo momento sia un impiegato statale, molto, tra virgolette, virgolette, però è il momento, anche sarebbe anche il momento buono, per esempio, di diminuire il compenso, non so come chiamarlo, lo stipendio dei nostri europarlamentari, che sono quelli più pagati nel mondo. Recuperiamo un po' di quattrini, diciamo a Fantozzi: guarda, ci dispiace, fino a ieri potevamo mantenerci su questo livello, adesso non possiamo più, e finisce lì il discorso. Che cosa c'è di così straordinario? Fatta la legge, la si disfa. L'abbiamo fatto, l'ha fatto Prodi, che ha diminuito l'ICI, cioè l'ha ripristinato a metà, e così quando è andato Berlusconi l'ha rimesso, l'ha rielaborato, eliminato completamente. Perché non si può fare così per Fantozzi? Antonia, no, ma il suo ragionamento fila assolutamente. Non so chi avrebbe accettato quell'incarico. Evidentemente quell'incarico è un incarico certamente delicato, anche se poi, come sappiamo, il commissario è stato sollevato da alcune possibilità di affrontare magari in futuro dei guai, però anche un incarico che ha una remunerazione molto, molto alta, come è accaduto per esempio nel caso di Parmalat, soprattutto quando le aziende sono di un certo tipo, e naturalmente ci vogliono anche delle persone molto capaci, e la capacità va pagata. Lei dice 15 milioni di euro, 16 milioni di euro sono un'esagerazione, può darsi, sono d'accordo con lei, evidentemente si poteva intervenire anche in quel senso. Andiamo a sentire 8:30 questa sera, il titolo è Terrorismo a chi giova. Loretta Napoleoni, economista, ha scritto diversi libri sul terrorismo, sentiamo. Negli ultimi 12 mesi, ecco, questo diciamo è l'attacco più importante, perché colpisce il cuore di una città che è Mumbai, una città importantissima finanziaria, ma anche e soprattutto perché sta colpendo gli occidentali. In più c'è una lotta, cioè c'è un comando che sta lottando con le forze dell'ordine, e quindi si protrae. Però ecco, dobbiamo inserirlo in un periodo di violenza politica in aumento all'interno del paese, cosa che chiaramente noi non sapevamo, perché la notizia di quanto è accaduto 2 giorni fa ci ha raggiunto un po' di sorpresa. Ecco perché parliamo di un nuovo 11 settembre, ma l'11 settembre non aveva alle spalle una serie di attentati. L'11 settembre è stato un evento eccezionale che non aveva precedenti. Qui invece... Ecco. Anche se in realtà questi attentati erano ampiamente annunciati, vero Rashid? Questo almeno è quello che... Ahmed Rashid è uno dei più grandi esperti di terrorismo di quell'area. Credo che questo attacco sia in effetti molto diverso. Loretta ha ragione, ci sono stati una serie di attacchi in India, ma amatoriali, bombe su biciclette, su motociclette, hanno ucciso in modo indiscriminato. Va bene, il dibattito intorno alla natura di quello che sta accadendo in India, titoli del TG2. A Mumbai si continua a combattere, nel centro ebraico trovati morti 5 ostaggi, tutti salvi gli italiani, il bilancio sale a 151 morti. La storia di Emanuele, il cuoco italiano dell'Oberoi Hotel, che durante le ore dell'assedio ha sfidato i terroristi per portare il latte in polvere alla figlia di pochi mesi. Approvate dal Consiglio dei Ministri le misure anticrisi nel pacchetto bonus per le famiglie, detassazione dei premi di produttività, agevolazioni su bollette e tariffe, tetto per i mutui. Berlusconi lancia un appello all'opposizione a collaborare nell'interesse del Paese, ma il Partito Democratico risponde picche e dice chiedono aiuto a giochi fatti. E nevica su gran parte del centro-nord, imbiancati 500 km di autostrade. In Sardegna, raffiche violentissime di scirocco e pioggia battente, diversi incidenti mortali. La Protezione Civile avverte, chi può resti a casa. Bene, bene, andiamo subito a sentire gli ascoltatori. Ricordo che resteremo in onda con voi fino alle 21:45. Aspettiamo, in particolare dopo le 21, le vostre telefonate sulla situazione atmosferica, sulla neve, soprattutto da parte di chi è in viaggio. E andiamo a Verona da Hassan. Buonasera Hassan. Sì, buonasera, grazie di avermi richiamato. Sono un grandissimo appassionato della vostra radio, perché tante volte mi aiuta anche a capire certe realtà nel mondo politico, perché purtroppo sentire l'iniziativa della giunta, mi sembra, di Spresiano, di un comune del Trevigiano, no? Sì. È una cosa veramente impensabile, è una cosa da non neanche ascoltare sulle medie, secondo me. Penso che quelle che hanno detto questa cosa qua devono solo tanto sapere una cosa, che l'immigrato oggi, dopo la legge Martelli, ha dato all'erario, allo Stato italiano, 18 anni di contributi, no? E questa signora o questa giunta devono mettere in conto queste condizioni qua. Se l'immigrato oggi si offre la condizione economica come tutto il mondo, come hanno detto tutti quanti, come sentiamo anche dalla vostra radio, non è il problema dell'immigrato, ma a sentire un'iniziativa a dare 2.000 euro, non so cosa rappresenta quei 2.000 euro a uno che ha bambini qua che hanno 15 anni, hanno raggiunto l'età dell'adolescenza, anche qualcuno che ha bambini che hanno raggiunto anche i 20 anni. Non so che paese è questo, che democrazia è questa, su quale criterio si sono basati a dare questa cosa qua. È una cosa indegna di un paese civile, secondo me. Hassan, un attimo solo, un ascoltatore da Venezia ci dice: per gli sfrattati comuni pagano l'albergo, vitto compreso, se arriva preso a 3.000 euro, Nadia, Dolo, provincia di Venezia, perché stiamo cercando di capire il conto fatto dal comune in provincia di Treviso, per dire vi do 2.000 euro così andate via, mi conviene rispetto ai soldi che dovrei versare. Lei ci crede a questa storia? Ma cosa, lei non so, lei che forse capisce meglio, cosa credere a queste cose qua? No, io non riesco, perché io sono anche presidente della consulta degli immigrati qua a Verona, queste cose qua, cioè, esistono anche a Verona, però sentire anche che il massimo esponente della Lega, che è il sindaco, non ha mai neanche nominato una cosa del genere. Proprio queste cose qua vuol dire che è un razzismo puro questo qua nei confronti della gente che ha lavorato, che ha collaborato con lo Stato italiano. Qua si tratta di una cosa, di una ideologia che ultimamente sento in giro, che non è di un paese come l'Italia. L'Italia era conosciuta, è un paese benefico, paese che dà aiuti, dà tutto quanto, ma arrivare a certi livelli di questo genere qua vuol dire che praticamente siamo proprio... Ma io non so. Hassan, che... questa mattina in una trasmissione televisiva il senatore Bricolo, senatore della Lega, diceva in realtà anche in Spagna una cosa del genere viene fatta, quando qualcuno perde il lavoro e... ci sono delle comunità che hanno dato dei soldi per rimpatriare. No, in Spagna gli danno il 40% dell'indennizzo, dopo avrà il 60% dopo, quando ha raggiunto l'età della pensione. Però a 2.000 euro, cosa rappresenta quel 2.000 euro? Di uno che ha lavorato anni, anni, anni, anni, anni in Italia. No, ma non è per quelli che hanno lavorato anni, anni, anni, perché quelli che hanno lavorato tutti questi anni evidentemente non hanno... problemi con il permesso di soggiorno. È una questione anche dal punto di vista legislativo un po' complicata, devo dire. Non l'abbiamo afferrata perfettamente, soprattutto non abbiamo capito quanti soldi un comune come quello in provincia di Treviso, abbiamo sentito prima l'assessore, versa ogni mese alle persone che perdono il lavoro. La ringrazio. Carlo da Milano, buonasera. Pronto? Sì, dica. Sì, buonasera, Stefano da Milano. Ascolti, io volevo, la prima volta tanto che chiamo per radio, perciò magari mi scusi se magari non sarò ben delineato nelle parole. Pronto? La sento, dica pure. Sì. No, ascolti, io ho un'opinione che non ha niente di personale, soprattutto niente di razzistico, voglio anticipare questo. Allora, tempo fa chi portava i soldi in Svizzera veniva comunque... trovato e condannato, perché comunque erano tutte valute, erano moneta che non girava in Italia, perciò non creava il giro del lavoro, non creava, diciamo, la spesa. Adesso, sulla base anche di quello che ha detto Berlusconi, cioè di non di continuare a spendere, vorrei sapere se è mai stato fatto un calcolo di dove vanno a finire diciamo tutti gli investimenti che, giustamente nel loro diritto, il lavoratore straniero rigira poi nei suoi paesi di origine. Cioè, io conosco molti immigrati, ho molte conoscenze, e c'è chi sta facendosi la casa, chi sta prendendo un'attività, chi sta aiutando la famiglia, ma comunque sono tutta valuta che non rientra più nel giro economico italiano. E io dico, se questo qua è mai stato calcolato, quando soprattutto è sempre stato detto che l'emigrato era una risorsa per l'economia italiana. Sì, però mi perdoni Carlo, questo fa parte di un'altra storia. Queste persone pagano le tasse in Italia, poi i soldi che rimangono, stiamo parlando naturalmente di tutto quello che avviene legalmente, dei soldi che hanno fanno quello che vogliono, li danno in beneficenza, si comprano la casa in Burkina Faso o non so dove, o in Tunisia o in Albania. Dov'è il punto? non è che si può tassare ancora di più questa fuoriuscita di, diciamo, di capitale, no? La ringrazio, andiamo a Napoli. Giovanni, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Salve. Senta, io volevo fare una premessa, sono un elettore del centrodestra, una stima per il presidente a livello imprenditoriale incredibile, e ancora di più è quella per Tremonti come tecnico. In qualità di commercialista stimo tantissimo il suo lavoro e la sua grande professionalità. E però devo constatare una delusione totale di questa politica che sta effettuando il governo. Cioè, io mi aspettavo da queste persone molto di più. Cioè, io sono sull'orlo di richiedere, io vorrei il voto indietro, perché io mi aspetto tanto da queste persone. Cioè, noi abbiamo votato a larga maggioranza una coalizione che comunque ha l'obbligo e il potere di assumere decisioni veramente importanti. Siamo di nuovo nella stessa logica stretta, cioè io mi trovo un Tremonti stretto tra Confindustria, io tra parentesi faccio il commercialista, quindi gli imprenditori sono i miei migliori clienti, cioè, è la gente che mi piace avere a che fare. Con la Tremonti stretto da Confindustria non mi pare molto corretto. No, però un attimo se mi permette, sì. Da logiche imprenditoriali, io conosco il lavoro di Tremonti perché l'ho studiato anche negli anni passati, non solo quello degli ultimi libri che mi interessano relativamente, ma piuttosto quelli tecnici, stretto da logiche imprenditoriali che hanno, secondo me, a mio modesto avviso, affamato un paese, e da una lotta con il governatore della Banca d'Italia. Cioè, io non capisco. Cioè, sì, no, Giovanni, però al di là delle lotte che lei immagina tra Banca d'Italia, Tremonti, Confindustria, eccetera, cosa bisognerebbe fare secondo lei? Andiamo sul concreto. Io penso che comunque abbiano il concreto, penso sia il frutto, cioè questo è il frutto del concreto del quale io parlo. Capito, Giovanni, cosa bisognerebbe fare rispetto a questi provvedimenti? Siccome lei li critica, dice bisognerebbe fare altro. Cosa bisognerebbe fare? Io preferisco una politica incentrata totalmente sul ceto medio, che quella che possa essere dunque una politica che favorisca una detassazione per tutto il ceto medio, per le famiglie, per i piccoli imprenditori. Riduzione delle tasse, diciamo, una riduzione delle tasse più o meno generalizzate. Ma anche un favore di consumi, cioè il primo prodotto dell'imprenditore è il consumatore, quindi anche vertere su quello. Sì, ho capito Giovanni, la risposta a queste sue osservazioni è che non ci sono i soldi. Per esempio sulla detassazione degli straordinari, su cui ha insistito Berlusconi, non ci sono. La risposta di Tremonti è importante mantenere i conti in ordine, anche se avessimo investito 100 miliardi comunque non sarebbero cambiati i fondamentali dell'economia, non ci sono i soldi. Come risponde a questa osservazione di Tremonti? Se rientra poi il discorso che volevo fare io, che volevo improntare, sull'impossibilità poi di muoversi in certi parametri che ci stringono, cioè voglio dire, in America si prenderanno provvedimenti tutt'altro diversi. È vero che loro possono approfittare di una loro situazione egemone a livello locale, però loro sono liberi da certi vincoli. Che noi capito, abbiamo, ma per Giovanni, però io insisto, lei che cosa farebbe? Voglio dire, mi candiderei e sarei presidente del Consiglio. No, perché poi non si può sempre criticare, no? Bisogna anche dire farei questo e quest'altro. Lei dice ci vuole una detassazione generalizzata, cioè bisogna ridurre le tasse, come più volte Berlusconi ha detto. Tremonti risponde, per il momento non ci sono i quattrini. Non ci crede lei? No, non ci credo. No, io vorrei che si operasse sui margini dell'indebitamento a livello di parametri della UE. Cioè, nel senso, noi dobbiamo in un momento del genere avere libertà di movimento. È impossibile. Oppure devo capire che questo è il frutto di una situazione fin troppo definita in partenza. Voglio dire, certo, ci sono alcuni. Se i parametri sono quelli, non è che ci si possa muovere molto da questo punto di vista, non c'è dubbio. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Francesco, provincia di Milano. Buonasera, Francesco. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. Grazie dello spazio. Ascolti, io volevo intervenire per il decreto approvato oggi, particolarmente su un punto solo, perché su tutti diventerebbe difficile, bisognerebbe essere molto preparati, se non lo sono. Parlo di quello dei mutui. Io lavoro in banca, su Radio Core ho visto la notizia, parlando dei mutui, del tetto al 4%. Sì. Che mi sta benissimo per i consumatori, ci mancherebbe, però critico le modalità per i mutui a tasso variabile, per i mutui a tasso variabile, certo, per quelli presenti, sì, perché quelli futuri sono stati fissati, mi sono preso la briga di andarmi a vedere, siccome non avevo capito bene la notizia, di andarmi a vedere la conferenza stampa sul sito del Consiglio dei Ministri, l'ho capita meglio. Parliamo di quelli in essere. Tremonti dice, li fissiamo al 4% in pratica, se non ho capito male, me lo conferma? Sì, sì, così. Però la modalità è, se lo superano, ce lo cogliamo noi tutti quanti, lo Stato. Ed è questa la modalità che io non concepisco, perché lavorando in banca, ed essendo stato e anche parzialmente ancora adesso a contatto col pubblico, ho avuto a che fare con diverse persone che hanno chiesto espressamente per pagare meno, perché i tassi erano bassi, tassi variabili, ma non è perché, cioè, non chiedevano tassi variabili per pagare meno, come è logico, chiedevano tassi variabili perché le banche penalizzavano commercialmente i tassi fissi. Sì. Allora, quello che voglio dire è che non mi sta bene. Cos'è che non le sta bene? Che ce lo cogliamo noi. Secondo me, in parte, almeno quelli presenti, non certo quelli futuri, perché sono fissati con un altro parametro. Sì, non più l'Euribor, ma il tasso di riferimento della BCE. Sì. Mi segue quello che voglio dire. Almeno quelli presenti, se la crollassero le banche, che hanno fatto pressioni sui venditori in agenzia. Sì, naturalmente se fosse così non esisterebbe il pacchetto anticrisi del governo e questi provvedimenti, che sono provvedimenti presi appunto per stanziare delle somme dello Stato in aiuto ai cittadini i cui tassi superano quella cifra che lei ha indicato. Questo è, sono soldi evidentemente dello Stato, cioè se il tasso dovesse salire sopra il 4% per quelli stipulati prima del 1 gennaio 2009, il mutuatario continuerebbe a pagare la cifra prevista la differenza andrà a carico dello Stato, che la finanzierà con modalità che sono ancora da stabilire. È così, cosa vuole che le dica? Mi dica. Sarà, però io capisco il suo ruolo, capisco quello di Tremonti, però non ci sta, Francesco. Non ci sta nella logica, perché a me viene in mente. Ma nessuno ha costretto. Mi scusi, Francesco, però nessuno ha costretto quelle persone a firmare un mutuo a tasso variabile. Ed è proprio lì il fatto. Beh, insomma, è proprio lì il fatto. Su questo si potrebbe. Nessuno le ha costrette, ma le banche le costrette. Ci sono delle categorie di operatori economici, però con operatori economici intendo clienti di banche, può essere una persona fisica, alle quali vengono costrette certe condizioni commerciali. Sì, no, ho capito, il discorso sarebbe molto lungo. Per la loro natura. Sì, no, ho capito, il discorso sociale sarebbe lungo, Francesco. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Andrea da Prato, buonasera. Buonasera, Andrea Gori da Prato in Toscana. Prego, dica. Vorrei tornare sulla tessera di povertà. Mi può confermare chi sono i destinatari della tessera? Ma guardi, uno schema qui sarebbe lunghissimo. Sono allora, pensionati e famiglie con figli, diciamo con redditi molto bassi, mettiamola così. Allora, mi ricordo bene che i destinatari di questa tessera sono persone oltre una certa età e quindi pensionati, che hanno un reddito pari o inferiore a 6.000 euro l'anno. Sì, mi sembra di sì, per alcuni scaglioni fino a 6.000 euro, per altri fino a 8.000, insomma dipende. Si parla di un discreto numero, mi pare di aver sentito dire milioni, no? 1.300.000 interessati, sì. Allora, lei ricorda che 7 anni fa o un po' di più l'attuale Presidente del Consiglio promise che avrebbe portato le pensioni minime a 1.000.000 al mese? A 500 euro. 14 euro. Ma credo che per alcune categorie questo sia successo, adesso non so se la cosa sia stata completata. No, quando lui lo promise disse che gradualmente sarebbero state portate tutte a un minimo di 514 euro. Gli ultimi 7 anni il governo Berlusconi è stato, in varie forme, è stato in carica per 5 anni e mezzo degli ultimi 7. Quindi se lo voleva fare, se lo poteva fare perché l'aveva promesso, avrebbe potuto. Andrea, io non ho però, mi scusi, le cifre sulla, su quello che ha promesso Berlusconi sulle pensioni minime, se siano state rispettate o no, se la riforma è stata completata o no. Se vuole riprendiamo il discorso, andiamo subito a sentire Davide, Davide da Torino, poi i titoli di Sky. Buonasera. Buonasera, dica. Ringrazio dell'opportunità, è la prima volta e vi seguo sempre. Io chiamo, lo so che il dibattito è molto acceso a causa dei vari temi sociali, ho preso spunto solo da quell'ascoltatore che è rimasto bloccato nella zona di Asti per il maltempo, sì, che evidenziava un deficit della macchina, diciamo, organizzatrice negli interventi per affrontare il disagio maltempo. Sì, dove si trova lei, Davide? Io come conducente di mezzi pesanti, sono anche un istruttore di scuola guida, ma da 5 anni sì, svolgo questa attività, e effettivamente porto la mia testimonianza. Le ultime 2 notti nel tratto A4A1 Torino-Milano, Piacenza-Bologna, 700 chilometri percorsi, segnalavano i pannelli luminosi, mezzi antighiaccio operativi, prestare prudenza, però le dico che in 2 notti, un totale di 1400 chilometri, stessa tratta in andata e ritorno, non ho mai visto uno spargistale, un mezzo, diciamo, operativo che spargesse del liquido antigelo. Lei dove si trova adesso? Davide, dove si trova in questo momento lei? Ah, io in questo momento ho attraversato la tangenziale di Milano. Chiedo scusa perché un ritorno all'auricolare probabilmente mi accavallo con le parole, non so se... No, va benissimo, è molto chiaro. Che situazione c'è in questo momento dal punto di vista meteorologico nella strada che sta percorrendo? Allora, io sono partito alle 19 da Torino, il tratto A4 Torino-Milano, al di là di una leggera pioggia, non c'era neve, il fondo stradale è positivo, il tratto scorrevole, tangenziali di Milano regolari, non era segnalato nulla. Io adesso ho imboccato la 1 direzione sud e i pannelli luminosi non evidenziano pericolo neve o pericolo pioggia. C'era un pannello che segnalava probabilmente l'incidente che i vostri notiziari avranno dato, credo sulla 21, c'era qualcosa, ecco, riguardo la direzione Torino, però attualmente io ho passato la zona di Piacenza e sono direzione Piacenza Sud, ecco, non ancora d'accordo, raggiunta. E il traffico è positivo, ecco. La ringrazio, titoli di Sky della 21. Mumbai, incubo finito per gli italiani, sono tutti liberi e stanno bene. Blitz a centro ebraico, uccisi 5 ostaggi, si aggrava il bilancio, 151 i morti. La storia eroica del cuoco che ha sfidato i terroristi per salvare la sua bimba. L'allerta di Maroni, altissima attenzione alla sicurezza, Frattini, nessuna minaccia specifica. Il governo approva il decreto anticrisi, tra le misure bonus famiglia e un tetto per i mutui. Partito Democratico e CGIL bocciano il pacchetto, cauta apertura da CISL e UIL. Calo record dell'inflazione a novembre, impicchiata i prezzi alla produzione. Il maltempo imperversa da nord a sud, 4 morti in incidenti stradali. Via libera del Senato al decreto sull'università, la Sapienza, eruzione degli studenti. Morire di calcio, speciale Sky Sport sulla SLA, la sindrome che uccide i calciatori. Bene, incredibile quello che è successo oggi all'Università La Sapienza, dove l'inaugurazione dell'anno accademico è stata interrotta e non si è più andato avanti per l'irruzione di alcuni studenti. Evidentemente non conoscono le buone maniere, il rettore Frati li ha apostrofati, fascisti, non si fa così, eccetera, eccetera, e aveva perfettamente ragioni. Alle invasioni barbariche il sindaco di Torino Chiamparino, sentiamo. Riformerei il governo ombra, cercherei di lo dico per me, cioè cercherei di farlo funzionare di più a ridosso dei gruppi parlamentari, però servono se è capace di proposta, cioè ad esempio proprio sul... nel senso che cambierebbe le persone o le farebbe lavorare in un altro no, modo? No, bisogna che, per esempio, credo che sia meglio se sono tutti, lo dico per me che non sono parlamentari, cioè sia intanto meglio se sono tutti parlamentari, perché poi il grosso... Allora perché l'ha accettato quando gli hanno l'ho accettato proposto? Perché mi sembrava il segnale di un'attenzione verso il territorio, che è una poi degli altri temi sui quali, come sa, io sono in questi giorni, cioè il segnale di una presenza, diciamo, di un ente locale, di una rappresentanza degli enti locali. Bene, Carlo da Roma, buonasera Carlo. Buonasera, io volevo intervenire perché ho sentito in televisione la raccomandazione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche a non usare la macchina. Però c'è un problema. Io mi sono collegato ieri, fortuitamente, non volendo, al sito della Protezione Civile, dove era ampiamente previsto quello che si è scatenato nell'Italia del Nord, Liguria, Piemonte e Lombardia. È inutile che dicono adesso, il giorno dopo, non prendete la macchina se non per motivi assolutamente importanti. Beh, non è stato detto solamente il giorno dopo, Carlo? Ma ieri doveva essere più pubblicizzato, perché era previsto ed era... doveva essere messo in movimento prima una struttura di questo tipo. Succede tutti gli anni, tutti gli inverni, il paese è in difficoltà perché la struttura autostradale la conosciamo ed è esposta. È chiaro che non si possono concentrare tutti gli spalaneve dove dovrebbero essere messi, dove nevicherà, ma è molto più semplice chiudere le strade e non consentire alla gente poi di trovarsi 7, 8, 10 ore fermi sotto la neve. Sì, non è semplice. È un provvedimento un po' più deciso. Non è il solo filtro dei mezzi pesanti. Sì, no, i mezzi pesanti sono forse più preparati a gestire queste situazioni. È l'automobilista che non sa neanche, non ha mai montato le catene in vita sua, che non deve essere mandato allo sbaraglio. E può darsi che ci sia bisogno di provvedimenti più drastici in questo caso, il blocco della circolazione in alcune autostrade, però sono provvedimenti molto difficili da prendere, ci si affida in questi casi anche al buonsenso all'iniziativa personale, no? Grazie. No? Grazie a lei, sentiamo non c'è il traffico, le 21:15. 21 e 16 anzi in questo momento, 800 24 00 24, Fabio da Roma, buonasera. Sì, buonasera, salve. Dica. Salve Cruciani. A parte, io ho ancora un piccolo sassolino nella scarpa da levarmi con lei per quanto riguarda quell'affermazione che lei fece su Cossiga. Mi perdonerà se dopo tanto tempo ancora ritengo. No, prego, dica pure. Questo perché... No, ma insomma così, senza troppo... Cosa ho detto su Cossiga? Che mi è simpatico? Ma ha appoggiato, sì, ha appoggiato quel discorso su Cossiga. Io non ho appoggiato niente, ho detto semplicemente che mi faceva sorridere. Simpatico, come disse, sì, la faceva sorridere. Io ho 43 anni, insomma. Sì. Però penso che con tante teste calde, carissimo Cruciani, vanno in giro di questi tempi. Insomma, io penso, poi per carità, che certe cosettine, insomma, dette per radio, una radio come la vostra, io addio, così seguita, non lo so, così, non mi è sembrato opportuno, però, torno a ripetere, non vorrei andare a rivangare cose là con il tempo. No, il mio intervento, carissimo Cruciani, era per quanto lei prima, come dire, ironizzava con i ragazzi di Napoli, il commercialista, no, ironizzava, lo provocava, per il fatto dove troviamo le risorse. Io butto lì che una volta si parlava di abolire le province, e se dal 1 gennaio abolissero queste inutili province potremmo recuperare dei soldi. Siccome non se ne parla più, il nostro Presidente del Consiglio non ne parla assolutamente più, potrebbe essere un'idea, non so, la butto lì. No, Fabio, lei ha ragione con me da questo punto di vista, lo sa, sfonda una porta aperta sull'abolizione delle province, per me anche l'altro ieri, non dal 1 gennaio, sono operazioni più facile a dirsi poi che a farsi, non solo per le lobby politiche che ci sono intorno, la Lega per esempio è contraria perché naturalmente controlla, diciamo, diverse province nel nord e le province sono comunque una fonte di potere, di denaro, eccetera eccetera, ma soprattutto perché poi non è che dal 1 gennaio si aboliscono le province punto e basta e non c'è automaticamente un risparmio, è più complessa la cosa, no? Stradassimo verso quella strada, probabilmente prima o poi arriveremo a quello. Sì, no, ma anche altri soldi. Sono d'accordo con lei. Io non le dico poi Cruciani, perché sicuramente lei mi dice non è d'accordo, che sono retorico, eccetera, dell'Alitalia, per carità, quello non glielo dico, perché non glielo dico. No, ma lo può anche dire, non c'è problema. Io credo che l'Alitalia in ogni caso, naturalmente al netto della situazione di Air France, perché... a me lo può dire perché ero favorevolissimo, come lei sa, se ci segue, alla vendita del France, però eliminando quella possibilità comunque sarebbe stata a carico dei contribuenti, perché comunque si tratta di un'azienda con il 49% di partecipazione statale, no? Sì, no, siccome lei una sera disse pure oramai Air France non c'è più, è inutile parlare ancora di Air France. Eravamo nel campo delle trattative con Kai. Ho capito però Cruciani, però voglio dire, se uno ammazza la mamma, comunque questa mamma la pur uccisa, voglio dire, no? Sì, insomma, d'accordo, però non si può ripetere 150 volte ogni volta che si introduce il discorso all'Italia, era meglio venderla del France, io lo dico, glielo ripeto, era meglio venderla del France, punto, poi andiamo a capo e c'è il futuro, no? Sono tuo problema si agita. No, ma non mi sto agitando. Ho parlato delle province, ho parlato, quindi è una cosa d'attualità che non se ne parla più a noi, insomma, ci sta tanto a cuore. Mi ricordo un report di una Gabbanelli che denunciò veramente gli sprechi, gli sperperi di queste benedette province che non si capisce a che cappe riservano. Comunque, vabbè, tutto qui, io la ringrazio. Più che altro le comunità montane, ricordo, era una denuncia. Quasi mi sfuggiva, sì, infatti la seconda cosa mi veniva in mente adesso era proprio le comunità montane, quelle a 300 metri dal livello dal mare, sì, infatti mi era sfuggito. Bene, grazie. Grazie a lei. Grazie Fabio da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Mi riferisco alla sua osservazione di poco fa riguardo all'uso dell'auto. Purtroppo non tutti abitano in via Manzoni per andare a lavorare in Monte Napoleone, quindi l'auto tutti abbiamo un buon motivo per averla presa, chiaramente. Ma infatti io dicevo questo poi fondamentalmente, che non si può impedire alla gente di usare la macchina, naturalmente poi dipende da quello. È meglio vivere che morire in mezzo sulle strade, no? Per un incidente, per la neve. Ma questo senz'altro, però purtroppo un buon motivo per prenderla e per farsi 6 ore invece che 2 e così via c'è stato per tutti, perché io ho dovuto fotografare delle cose che poi partivano, quindi per me era un buon motivo, no? E questo è il senso. Allora, il punto è, come mai da Milano al luogo di destinazione per 6 ore non ho visto un mezzo che puliva le strade? Stasera sto tornando, le strade sono perfette. E sono partito dalle 7:30. Cioè lei dice che la polizia delle strade, le strade sono state liberate in ritardo? Certamente, nel senso che dalle 7:30 sono arrivato alle 13:30 dove dovevo arrivare e le strade erano piene di neve, erano bianche. E attenzione, sono uscito dall'autostrada, ho preso delle strade statali, stessa condizione. Quindi, cioè, diciamo le cose come stanno, è vero, un po' di buon senso ci vuole, ma ci vuole anche un intervento abbastanza tempestivo, perché, cioè, voglio dire, dalle 7:30 del mattino alle 13:30. Parlo dell'Alessandrino, cioè da Milano sono dovuto andare fino ad Alessandria, quindi è una zona altamente servita, no? da tutti i punti di vista. La seconda cosa era riguardo le banche. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che c'era così libero arbitrio e così libera scelta. Io faccio un lavoro che per me l'economia è un ravanello, infatti vi ascolto sempre perché non capisco qualcosa, ma all'epoca in cui ho stipulato il mio mutuo mi sono fatto consigliare, nel senso che allora o sono dei venditori di birra questi, o tutti quelli dell'economia sono dei venditori di fumo, e allora bisogna anche lì, come quando compri un pomodoro o una birra, controllare cosa ti stanno dando. Eh beh, un po' sì. Sì, comprendo, però mi scusi Cruciani, cioè uno non ha sempre le competenze, no? Voglio difendere le banche, sto dicendo semplicemente che gli andamenti dei tassi per quello che riguarda i mutui sono arcinoti. Poi certo, se uno è stato spinto, costretto a fare un mutuo a tasso variabile, adesso si trova a pagare tantissimi soldi, sono stati introdotti dei correttivi eccetera, però insomma si tratta sempre di situazioni collegabili al mercato, all'andamento del mercato. Adesso per esempio questo governo ha preso dei provvedimenti, il governo precedente ha preso degli altri provvedimenti sulla portabilità dei mutui che insomma ci hanno messo un po' a entrare in vigore per la resistenza delle banche. Si sta cercando di fare qualcosa su meccanismi che evidentemente sono legati al mercato. Però Fabio, che per anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo, non voglio dire manipolandoci perché è un po' esagerato, però senz'altro rassicurandoci, e poi alla fine ci ritroviamo in queste condizioni. Quindi allora attenzione, sono dei venditori di birra anche loro, dei venditori di fumo, senza nulla togliere a chi vende la birra, che c'entra la birra appunto, la birra nel senso che non sono consulenti, è gente che vende perché gli è stato detto di vendere quello, i venditori del mondo. Ho capito, sono, ma insomma non è che sono dei consulenti personalizzati, sono delle persone che devono vendere un prodotto e non è che uno sia costretto con la pistola alla tempia a prendere quel prodotto. Per tali si sono spacciati e per tali sono spacciati per tanti anni un po' tutti quelli che lavorano nel mondo della finanza e dell'economia. Sì, ma siamo sempre nel campo, Fabio, mi scusi, però da questo punto di vista la ringrazio, poi perché abbiamo un collegamento con gli Stati Uniti. Si tratta pur sempre di scelte personali. Poi, ripeto, lo Stato adesso sta cercando di approntare delle reti di protezione perché si trova in difficoltà, i mutui a tasso variabile troppo pesanti, a parte che si sono abbassati adesso, dunque bisogna fare un calcolo sempre sul totale del mutuo, non quello che è successo magari negli ultimi tempi, ma si tratta pur sempre di scelte personali. Uno pensa di fare delle scelte poi che sono soggette all'alea e ai rischi del mercato e poi in ogni caso salvarsi, no? Non è così naturalmente. 21:24, collegamento con gli Stati Uniti con Cristian Rocca, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Si discute molto negli Stati Uniti, immagino, per quello che riguarda la politica, naturalmente, delle scelte fatte dall'amministrazione Obama, in particolare dal presidente eletto, sulla le prime scelte soprattutto in campo economico. Ha sorpreso anche qui in Italia la scelta, per esempio, di un uomo non certo giovanissimo come Volcker, che è stato capo della Fed eccetera, 81 anni, e che ha lavorato addirittura anche con Reagan come uno dei super esperti nell'economia. Abbiamo anche sentito di riflesso qui in Italia, adesso tu ce lo racconterai, un po' di delusione tra i, chiamiamoli così, i progressisti americani, quelli che speravano, insomma, che la presidenza Obama fosse una sorta di rivoluzione da questo punto di vista nelle scelte. Fino adesso non è stato così, trionfa l'esperienza, o sbaglio? Ma un po' di delusione, anche forse troppo poco, diciamo, mettiamola così. Nelle due cose più importanti di questi tempi, cioè la crisi economica e la crisi in Iraq, tutta la vicenda del terrorismo internazionale eccetera, Obama ha fatto queste due scelte. Ha scelto come segretario al tesoro Timothy Geithner, che è l'attuale presidente della Fed, della banca centrale di New York, che è uno che in queste settimane, in questi mesi, ha gestito per conto di Bush e dell'attuale ministro del tesoro tutta la vicenda della crisi finanziaria, quindi continuità con quello che sta facendo Bush al tesoro. Mentre per quanto riguarda la difesa e il Pentagono, Obama manterrà Robert Gates. Non è ancora ufficiale, ma lo sarà. Non è ancora ufficiale, lo farà lunedì, ma è ufficioso, insomma, è certo. Sì. E quindi ci sarà lo stesso ministro della guerra di George W. Bush. Per cui su questi due temi, quelli più importanti, lui fa una scelta che è esattamente in linea con quello che in questi mesi e in questi anni ha fatto George W. Bush. Poi se si vanno a guardare anche tutte le altre scelte, quelle annunciate, quelle certe, quelle possibili, sono tutte su questa linea, sono tutte personaggi, per stare per esempio sui temi dell'economia, sono tutti liberisti sì, che hanno lavorato con Clinton. In particolare il vero guru sarà, oltre a Volcker, sarà questo Lawrence Summers, sarà il capo dei consiglieri economici, che era stato ministro del tesoro di Clinton, ed è quello che ha sponsorizzato la legge che ha deregolamentato le attività delle banche alcuni anni fa e che ha provocato, diciamo, la crisi di questi mesi. Allora, tutto questo cosa significa? Innanzitutto, chi sono i delusi? Attraverso cosa si esprimono? Quali organi di stampa? E soprattutto che riflesso hanno poi nel dibattito? Cioè, c'è una delusione tra coloro che hanno votato per Obama oppure tra qualche giornale che ha appoggiato Obama? E seconda cosa, dal punto di vista delle scelte poi, cosa significano questi nomi, queste persone? Allora, è ancora tutto molto sotto traccia, circola molto sui blog, sui giornali più radicali, più di estrema sinistra, da The Nation ad altri, e comincia ad trapelare anche negli editoriali dei grandi giornali, sia del New York Times che del Wall Street Journal che del Washington Post, cominciano a dire, beh, ma sia qui che lì, sia sull'economia che sulla guerra, diciamo, le scelte sembrano, tra virgolette, di destra, più liberiste sul punto dell'economia e simili alla linea politica di Bush padre, quelle sulla politica estera e di sicurezza nazionale. La seconda cosa che mi avevi chiesto, non mi ricordo più, qual era? No, dico, poi dal punto di vista delle scelte concrete dell'amministrazione, il fatto di aver nominato delle persone di questo tipo, cosa significa? Può non significare niente, naturalmente. Può non significare niente. La cosa che certa è che questo dimostra che Barack Obama non è quello che molti in Europa e anche qui in America si sono immaginati, cioè il rivoluzionario progressista e pacifista che ribalta tutto ciò che l'America ha fatto in questi ultimi anni. Dimostrano che Barack Obama è un politico pragmatico, cinico, realista, attento alle cose che accadono sul campo e probabilmente molto più di destra di quello che si pensava appunto in Europa e in alcuni circoli qui negli Stati Uniti. Grazie a Cristian Rocca da New York, 21, 28 e 32. Torniamo alla situazione atmosferica delle strade in Italia con Ferdinando da Torino. Ferdinando, buonasera. Buonasera. Arrivo adesso da un'esperienza spiacevole. Io per viaggio, per il lavoro, devo viaggiare molto, ascolto sempre Radio 24 e cerco di essere informato su quello che accade nei chilometri che devo percorrere. Allora, oggi non è stato detto in nessun modo che sulla A26 non c'è coda, cioè ci sono macchine che sono ferme, ma ferme che staranno ferme fino a domani mattina, perché c'è una lastra di ghiaccio che è spessa 10 centimetri. Scusi, la 26 qual è? Scusi la mia ignoranza. La 26 è la Genova sul Gabriele Toce. Sì, sì. La Gabriele Toce. Allora, io l'ho percorsa per tornare a Milano, per tornare a Torino. Come ha fatto lei? Perché gli altri sono fermi e lei ce l'ha fatta allora? Allora, io le dico, l'informazione dell'autostrada, del cartello diceva che e della radio e sì. della vostra radio diceva che la coda era nel senso opposto. Sì. Quindi io ho percorso quella strada lì, mi sono trovato a fare 3 ore non di coda, ma di macchina spenta. Sì. E nel senso opposto, mentre verso Torino, comunque a un certo punto su una corsia delle 3 si poteva viaggiare a velocità 10 all'ora. Ma si poteva viaggiare nel senso opposto, veramente non si poteva viaggiare. Dunque, cioè, abbiamo dato informazioni corrette o scorrette secondo lei? Giuste o sbagliate? Corrette, scorrette, non precise, comprese quelle dell'autostrada e del cartellonistica che diceva coda nel senso. Ah, ecco, forse le nostre informazioni venivano in realtà da quelle sbagliate in origine, diciamo. Ferdinando, dove si trova adesso? Allora, adesso io mi trovo finalmente al casello di Torino per andare a casa. Allora, il sì. problema è questo: al di là della cattiva o sbagliata o non precisa informazione, perché coda è una cosa, mentre macchine ferme e motore spento che non avranno la possibilità di muoversi da lì è un'altra, certo. È un'altra cosa. C'è un altro discorso che all'innesto, per fortuna, su tra la Gravellona tra 21 alla Torino e Piacenza, io nel percorrerla, quindi nella stessa posizione geografica, quindi con le stesse precipitazioni, la strada era completamente sgombra. Verso Torino la 21 era completamente pulita. Come mai la Gravellona Toce era completamente ghiacciata, no, non sporca, ghiacciata, e non potranno neanche pulirla, perché con tutte le macchine che sono lì ferme, non so fino a quanto, ripeto, non potranno neanche intervenire. E questo perché, secondo lei, perché questa differenza? Questa è una domanda. Sì. Come mai un'autostrada pulita, l'altra no? Ma c'è una differenza di gestione, non credo, no? Non lo so, non è dato. Non mi ricordo. Io sono uno che usufruisce del servizio e sì. posso dire che oltre alla cattiva informazione ricevuta dall'autostrada, quindi con informazioni addirittura contrarie alla realtà, bisogna dire che quando le code sono code, si chiamano code. Quando il traffico è fermo e la gente dovrà passare la notte lì, si chiama in un altro modo. Ed è veramente tragico. Ferdinando, per lei era proprio necessario, naturalmente, oggi... Io avevo un appuntamento che non potevo rimandare, un primo appuntamento di lavoro. Io ieri sera sono partito da Torino a mezzanotte e sono andato a dormire alle 2 per evitare il problema del mattino che era noto, il discorso della nevicata. Io sono partito a mezzanotte e sono andato a dormire a Bergamo alle 2:15 per evitarmi i problemi, proprio perché non potevo evitarmi la cosa, ma non si capisce perché. Io ho viaggiato sulla 4 benissimo e nevicava anche a Milano. Sulla Gravellona Toce mi sono trovato con questo e non ero informato, perché sennò non l'avrei percorsa, avrei fatto la 4 fino a Torino. E in più la 21 era pulita e sono arrivato a casa sulla Torino Savona ai 130 all'ora. Cioè, voglio dire, qualcosa non ha funzionato. Assolutamente. La ringrazio e da Torino ci spostiamo a Pompei, da Claudio, dove credo non ci siano questi problemi. Pronto? Sì, buonasera, dica. Buonasera, la ringrazio per avermi chiamato. Grazie a lei di averci chiamato, dica. Sì, no, io volevo solamente esporre il mio disappunto per queste misure che sono state prese per magari risollevare un poco la situazione della crisi economica. Sì. Dire vederla assolutamente insufficiente è poco. Che tranne queste operazioni di facciata, io non vedo come possa risollevarsi questa economia, magari elargendo solo un'elemosina ai poveri. Ma infatti non si vuole risollevare l'economia, Claudio. Poi i singoli provvedimenti possono essere criticati, naturalmente. No, io la ritengo una cosa buona, perché è giusto che magari le persone più indigenti magari abbiano qualche cosa. Sì. Però indigenza in Italia significa anche buona parte del ceto medio. Io le faccio il mio esempio, io sono un dipendente pubblico. Sì. Guadagno 1.100 euro al mese. Sì. E faccio fatica ad arrivare alla quarta settimana, se ne è parlato tanto di queste cose, no? E forse anche alla terza. In tutto questo non ho visto un centesimo di aumento. E come me penso ci saranno milioni di persone. Sì, Claudio, allora dico, lei vorrebbe una riduzione fiscale, evidentemente, no? Sì, no, io parlo magari dell'ultima trovata di Berlusconi, quando se ne è uscita, detassiamo le tredicesime. Sì, poi non l'ha potuto fare. L'ha fatto, infatti, l'ha fatto credere a tutti e poi non l'ha fatto, ma io già lo pensavo questo. Ma allora lui perché, invece di dire delle cose per farsi bello, che poi magari bello non è, non chiede al suo ministro Tremonti se si può fare o no? E poi sì, va però in televisione. Mi scusi Claudio, no, ho capito quello che lei vuole dire, la ringrazio di averci chiamato. Sulla detassazione, per carità, Berlusconi ha fatto tante promesse, ha promesso tante cose e poi non è riuscito a realizzarle, però sulla detassazione delle tredicesime, devo dire che sin dall'inizio c'era stato se si potrà fare, eccetera, eccetera, da questo punto di vista, per quello che riguarda la detassazione delle tredicesime. Andiamo a sentire Cristian Arezzo, velocemente perché andiamo verso la conclusione. Cristian, buonasera. Sì, buonasera. Io è anni che vi seguo. Niente, stasera ho provato a chiamare. E vi ringrazio per la parola. L'unica cosa che voglio dire è questa, è che praticamente, secondo me, la crisi finanziaria, i politici non sanno neanche cos'è, perché secondo me vivono in un altro pianeta. Cioè, non sanno... Perché gente guadagna tanti soldi a quei livelli, se sbaglia... Non gli fanno niente, stanno sempre lì, sono tantissimi, siamo lo Stato più che ha più politici al mondo. Io ho 36 anni e faccio l'imprenditore da quando ho 28. Sì, però non ricominciamo a parlare della casta, anche quando non c'entra assolutamente nulla in questo caso con i provvedimenti sull'economia. Abbia pazienza, Cristian, non possiamo tornare a dire i politici nemmeno si accorgono della crisi economica. Certo, ma no. nemmeno lei probabilmente se ne accorge, nemmeno io in piccolo. No? Come no? Ci se ne accorge sì e come? Io ho visto la sera a Ballarò, Barbareschi in politica, c'è della gente... Ma che c'entra adesso Barbareschi in politica con il discorso della crisi economica? Però, no, cioè, c'è di tutto. Ma lo sappiamo che c'è di tutto. Ma finché anche questa gente non ha più la passione, cioè non ha più niente, cioè, tanto loro vivono benissimo uguale. Non cambia niente. Può darsi. La ringrazio. Maria da Cagliari, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo solo volevo parlare del decreto salva famiglia. Vorrei capire, cioè tutti gridano allo scandalo, i sindacati e di tutti di più. Come mai a noi ci hanno rinnovato il contratto a settembre degli studi professionali di cui fa parte anche il commercio e praticamente ci hanno dato in busta 57 euro lorde e possono aver accettato un contratto di questo tipo i sindacati, che in busta vengono 30 euro nette dopo 2 anni che il contratto era scaduto. Troppo poco, dice lei? Se facciamo le proporzioni, cioè voglio dire, cioè tutti gridano allo scandalo, ma io dico poi alla fine perché i sindacati allora hanno accettato? Cioè di queste cose allora non se ne parla. Sì, Maria, però adesso non ci possiamo mettere a fare la disamina di tutti i contratti rinnovati. Quel po' che arriva, insomma, ci si può accontentare in quel senso. Beh, soprattutto quando non si è in quella situazione, dico io, cioè nella situazione di indigenza, io credo che parlare di elemosina, quei 4 soldi, 2 caffè scontati sia abbastanza fuori luogo, non trova lei? Io trovo che sia così. Comunque qui a Cagliari piove sempre, cioè è proprio bruttissimo, un tempo bruttissimo. Da quanto? Da quanti giorni? Qui piove da 2 giorni con un vento terribile, ieri sera spaventoso. E vabbè. Sì. Insomma, speriamo che si metta un po' al meglio. E vabbè, concludiamo così alle 21:42 con un auspicio sul bel tempo. Abbiamo anche Matteo da Trieste. Matteo, è troppo tardi, 30 secondi ce la fa? Sì, salve. Dica, no, volevo solo dire perché tutti quanti i partiti non prendono considerazione il precario, se lo fanno in considerazione molto, molto minore, ecco, rispetto alle altre categorie. Ma guardi, la parola precario è in bocca a tantissimi politici. Io non so nemmeno cosa significa, cioè persone che non hanno contratto a tempo indeterminato, persone che hanno contratto a tempo determinato oppure disoccupati, non so che cosa intendere per precari. Si è abusato molto di questa parola in Italia. La ringrazio, ci sentiamo lunedì 18:30 con la Zanzara, ciao. La Zanzara.